si può fare. L'attualità, anche d'estate, di Alessio Maurizi. Sapere a tutti che quando in occasione del Natale sono stato invitato a celebrare la messa con i dipendenti e le loro famiglie e mi è stato chiesto di benedire i due nuovi modelli della Fiat, la Renegade e la 500X, sa che cosa mi hanno detto i dirigenti? Padre, da quando ha fatto quella benedizione siamo stati sommersi da una pioggia di richieste di acquisto. Un vero miracolo. Se il vescovo ha chiesto, innanzitutto lo ha fatto a voce, quando si è diretto ai dirigenti della Fiat ha detto: siamo in una fase molto importante, avete tante richieste, ci sta anche bene lavorare di domenica. Eccoci qua, buonasera cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessio Maurizi con Si può fare, 18, 20 e 30, 800 24 00 24 per intervenire in diretta. Cominciate subito a prenotare il vostro intervento. Avete sentito, questo era Monsignor Todisco, intervistato questa mattina da Agorà Rai. Monsignor Todisco, quello che ha scritto una lettera a Marchionne, numero uno della Fiat, per chiedergli di non lavorare la domenica, possibilmente il giorno del Signore, ma anche il giorno del riposo delle famiglie. È un tema che ritorna dopo che si è discusso anche se era giusto o meno lavorare a Ferragosto in questa estate. È stato chiesto in diverse fabbriche di lavorare anche il giorno di Ferragosto. Cosa ne pensate, cari ascoltatori? È giusto? Bisogna lavorare? Ci sono i cicli produttivi? C'è la richiesta? C'è la richiesta del mercato? Allora le fabbriche non devono, non possono fermarsi in una situazione di crisi come questa. Oppure ha ragione Monsignor Todisco, a furia di andare dietro a questi picchi di mercato perderemo le domeniche, perderemo il riposo, perderemo le famiglie, perderemo tutto. 800 24 00 24, botta e risposta tra Sgarbi e Ike Schmidt. Sgarbi, ci stai dicendo che quindi queste nomine potrebbero anche essere, diciamo, cancellate con un tratto di penna, con ricorsi alla magistratura, eccetera? Non c'è dubbio che accadrà. Ma mica tanto così giovane, oramai ho 47 anni, quindi ho già qualche esperienza alle spalle, direi. Quando tu hai allo scritto, ai titoli, 83 a 80, con un funzionario interno che ha 83, non può perdere da uno che ha preso 80 esterno con un colloquio di un quarto d'ora. Non si può dare! Il ministro non può tradire i suoi funzionari in questo modo. Ecco perché la cosa è gravissima. Ma è un abuso di potere senza precedenti. È una specie... assoluto. Sgarbi sull'orlo di una crisi di nervi, forse qualcuno malignava ieri sera, l'altra sera, quando è stata in trasmissione da noi, forse perché voleva essere lui non solo a stare nella commissione che decideva, ma anche a uno di quei posti, direttore di uno dei grandi musei italiani. Sentiamo ancora Ike Schmidt, il nuovo direttore degli Uffizi che abbiamo intervistato ieri sera, a proposito di una cosa che si annuncia già come spinosa, cioè la possibilità di affittare ai privati alcune sale dei prestigiose gallerie degli Uffizi per fare degli eventi privati, che però possono portare un sacco di soldi in cassa e per fare poi tante altre belle cose agli Uffizi. Sentiamo. Tutti i mondi si fanno queste collaborazioni con il settore privato, soprattutto in America è una cosa normalissima di affittare oppure di dare la possibilità di usare certe sale dei musei qui a Minneapolis, per esempio, per ragazzi privati. Però non nel senso che io prendo una cosa esattamente come viene fatto così e lo esporterei in Italia. Questo sarebbe sbagliato di pensare che questo fosse possibile, però invece di prendere l'idea, il principio e poi proprio adattarlo precisamente alla realtà italiana, che è diversa. Gli Uffizi sono un museo unico nel mondo, il museo anche uno dei più antichi musei in esistenza in tutto il mondo, quindi questo va tutto considerato, e so che per esempio per questi eventi esiste già un regolamento agli Uffizi, quindi non sarebbe una cosa completamente nuova. Io quando arrivo devo studiarlo, e sarà tra le prime cose studiarlo per bene, parlare con i colleghi, e senz'altro questo è una cosa importante. E voi da che parte state, cari ascoltatori? Dalla parte di Sgarbi o di altri illustri critici d'arte che in questi giorni sui giornali si sono esercitati in varie interviste a dire che questo concorso non serve a niente, che è sbagliato, che ci saranno dei ricorsi, che si poteva fare diversamente, bla bla bla, oppure invece dalla parte di chi dice no, finalmente una ventata d'aria nuova, direttori stranieri, europei, gente preparata, gente che viene con un piglio manageriale? Avete sentito Heike Schmidt dire, beh, insomma, intanto dobbiamo diminuire le code agli Uffizi perché non si può far aspettare la gente all'ingresso, e poi vedremo di sfruttare al meglio il potenziale economico anche degli Uffizi. L'avete sentito anche dal giornale radio, Martina Levato vuole andare da Don Mazzi, il suo bambino è stato dato in tutela legale al Comune di Milano, deve ancora essere deciso, devono decidere ancora il Tribunale esattamente quali saranno le prossime mosse, anche se è stata aperta la procedura di adottabilità, ma non sono esclusi i nonni del bambino. Sentite Don Mazzi. Abbiamo delle comunità dove ci sono delle mamme dei bambini, abbiamo avuto casi più semplici di questi, casi più complicati. Io comunque sono del parere che il bimbo deve stare con sua madre, anche se sulla madre ci sono alcuni precedenti, ci sono alcune cose da chiarire. La madre è molto più normale di quello che si pensa ed ha avuto questo rapporto molto pesante con un personaggio che ha inciso su di lei e che gli ha fatto fare alcune cose che certamente non avrebbe mai fatto. Cari ascoltatori, 800 24 00 24, lo sapevate che gli animali non hanno un'anima? O meglio, parola di Don Daniele Forte di Porzia ieri sera ai nostri microfoni: hanno un'anima, ma gerarchicamente meno importante dell'anima degli esseri umani. Nella tradizione cattolica, che si rifà anche alla filosofia di Aristotele, eccetera, cioè l'anima infusa nell'uomo è fatta da Dio, è Dio che ha fatto tutta la creazione. E anche gli animali nella loro specie hanno una certa anima animale, come i vegetali, un'anima vegetale, perché è il mondo dove c'è la vita. Però non possiamo mettere tutto sullo stesso piano. Non possiamo pensare che gli animali abbiano gli stessi diritti dell'uomo. Addirittura, secondo Don Daniele Fort, gli animalisti, quelli che difendono gli animali a tutti i costi, in alcuni casi diventano dei veri e propri idolatri, cioè commettono un peccato perché mettono gli animali su un piedistallo come degli idoli, e questo è contrario anche ai valori della Chiesa. Don Daniele, sentiamo ancora un po'. Gli animali, cioè, hanno una loro anima, certo, hanno l'anima che riguarda il loro essere animali, non sono persone, non hanno l'anima che hanno gli uomini. 800 24 00 24, cari amici all'ascolto, e i nostri contatti, anche la pagina Facebook si può fare @radio24, l'account di Twitter si può fare 24, il mio Ale Maurizi. Ci risentiamo dopo il traffico. Si può fare l'attualità anche d'estate. She sits on her ass, he works his hands to the bone to give her money every payday. But she wants more dinero just to stay at home. Well, my friend, you gotta say, I won't pay ya. No way. Now, now, why don't you get a job? Sail away, sail away. Un sindacalista, ma non ha lo stipendio d'oro, sostiene che si può lavorare la domenica, ma se la prende quando gli insegnanti precari in procinto di trasferimento, bene, per loro si parla di deportazione, perché i suoi metalmeccanici si trasferiscono da una città all'altra senza clamori. È Marco Bentivogli, segretario della FIM CISL, buonasera. Buonasera a tutti. Cominciamo da questo, Bentivogli, cioè quando è scoppiata questa polemica, a me ha colpito, è scoppiata la polemica sugli insegnanti che in alcuni giornali, in alcune interviste parlavano di deportazione a proposito di questa sanatoria che prevede l'iscrizione in alcune liste per passare da precari ad assunti e anche il trasferimento in altre regioni. Lei ha detto: io non ci sto. Perché? Ma no, io non sono come altri sindacalisti che fanno incursioni nelle vertenze di altre categorie, io seguo i metalmeccanici, solo che ho sentito appunto questo utilizzo, non del sindacato scuola per la verità, ma da alcuni insegnanti, della parola deportazione. Che è una parola un po' forte, che ha un significato ben preciso, bisognerebbe stare attenti. Io credo che sia spropositata, la deportazione evoca cose ben più gravi, ben più drammatiche. Il trasferimento in un'altra realtà lontana dalla propria sede di lavoro è sicuramente un fatto che può risultare anche drammatico, ma non è una deportazione. Io citavo il fatto che molti degli accordi difensivi che abbiamo fatto in questa fase prevedono proprio dei trasferimenti. E non è una cosa indolore, non è che è una cosa indolore. No, lei dice, però abbiamo fatto gli accordi difensivi perché in questo momento per difendere il lavoro qualche compromesso dobbiamo farlo. Assolutamente, quei sindacalisti che dicono che vincono sempre perché non fanno né trattative o non fanno sindacato. Sindacato in una fase di crisi che vuole solo gli applausi vuol dire che non sta facendo sindacato. Mi fa un esempio di uno di questi accordi difensivi nei quali alcuni metalmeccanici di qualche azienda che hanno dovuto trasferirsi da qualche parte? Ma quasi tutti, l'ultimo in ordine di tempo quello Whirlpool. A Whirlpool, lo stabilimento di Caserta, quello che abbiamo difeso con 3 mesi di lotta molto dura, da 815 scenderanno a 320 dipendenti e 200 di loro si sposteranno da Caserta a Varese. E non sono trasferimenti così indolori come si può pensare, sono trasferimenti sicuramente complicati come sono per gli insegnanti. Infatti sicuramente la mia categoria, la C della scuola, io seguo i metalmeccanici, ma la scuola si è ben guardata da utilizzare questo termine deportazione, per cui bisogna recuperare in questo paese il senso del limite e anche soprattutto dell'italiano, e le parole hanno un senso e un peso. Questo utilizzo spropositato, iperempatico, permetta Maurizio, che di cui i media si nutrono, per fortuna non è si sempre può colpa fare, nostra, è sempre quello che sia tranquillo, ce le assumiamo le nostre responsabilità e le colpe anche. Se un italiano accende la televisione, ogni mezz'ora in qualche salsa Salvini esce, per cui è chiaro che è tutta colpa di Salvini adesso. No, ma lasci perdere, dico, Salvini, sì. Lasciamo perdere dico, un attimo. Dico sì. Che chi utilizza questi termini assolutamente spropositati, empatici, secondo me commette un errore molto grave. Le deportazioni hanno portato persone che non... Sì, anche perché in questo caso non è stato Salvini a parlare di deportazioni, ma è stato più nell'ambito di un certo sindacalismo della scuola o di singole interviste. Però mi faccio andare avanti, passiamo ad un altro argomento però, perché la questione a cui noi abbiamo aperto con la voce stessa di Monsignor Todisco sulla questione di Melfi. Il vescovo chiede alla Fiat di non lavorare la domenica per tutelare la famiglia, credo, oltre che il giorno del Signore, eccetera eccetera. Anche il Papa ha detto il lavoro non sia ostaggio del profitto, ma oggi in Italia, io le chiedo, è così? Il lavoro è ostaggio del profitto? Ma ci sono situazioni di sfruttamento, non c'è dubbio, abbiamo visto in queste ore persone che per 4 euro l'ora sono morte di fatica sotto il sole a raccogliere pomodori, per cui quello sì è un luogo dove il profitto tiene in ostaggio il lavoro. Esatto, bisognerebbe pensare a quello. Mi sembra che Monsignor Todisco abbia rettificato il suo messaggio, che è stato caricato di un significato. Monsignor Todisco dice che in periodo in cui non c'è necessità di produttività la domenica deve essere lasciata libera. Beh, infatti lavorare la domenica è sicuramente un disagio per le famiglie, però la precisazione che occorre fare è che l'accordo fatto per Melfi, e che spesso il Presidente del Consiglio dimentica, è l'accordo sindacale che ha fatto ripartire Melfi attraverso la possibilità di produrre 500X Renegade, prevede una domenica su 8 domeniche, per cui sostanzialmente una domenica ogni 2 mesi. Si può fare. E in una situazione in cui il turno più disagevole della domenica, che è la domenica pomeriggio, è escluso, sono a 19 turni. Però allora, se... è vero, sì. È vero, questo voglio concludere il mio ragionamento, è vero che è un disagio lavorare la domenica, ma è importante ricordare che i 5.400 lavoratori di Melfi erano tutti a casa, erano tutti in cassa integrazione, e questo accordo prevede intanto che in futuro attraverso investimenti si cerchi sempre di più di conciliare lavoro e vita, ma prevede oltre quei 5.400 che sono tornati al lavoro 2.000 nuove assunzioni. Quindi il bicchiere dal suo punto di vista è mezzo pieno, però è vero una cosa, le voglio chiedere, tutto pieno. Che c'è un po' un impazzimento, non lo so di come chiamarlo, dei cicli produttivi, chi se ne intende usa queste espressioni, economisti, di fabbriche come la Electrolux che sono in solidarietà e che però poi in certi momenti picchi produttivi chiedono di lavorare appunto al Ferragosto eccetera, è una situazione difficile da gestire e anche da far manda giù ai lavoratori, credo che da un lato si vedono decurtato il salario perché non c'è produzione, poi in certi momenti invece si chiede di fare gli straordinari. Ma è chiaro che il mercato, noi veniamo da una crisi in cui abbiamo perso 600.000 posti di lavoro nel settore industriale, Electrolux è stata una delle aziende falcidiate in cui era in discussione la chiusura di uno stabilimento e tutti quanti appunto in solidarietà. È stata molto significativa un'intervista di una lavoratrice. Dice, ma possiamo scioperare prima perché non c'è lavoro e poi perché c'è lavoro? Diventa una contraddizione, tant'è vero che 100 lavoratori spontaneamente sono andati a lavorare. Sì. Il Ferragosto è sicuramente anche questo molto importante, ma senza il lavoro... Cioè se lo metto in confronto con non avere lavoro è chiaro che la questione cambia completamente il punto di vista. In qualsiasi paese del mondo la base per discutere di diritti è avere lavoro, altrimenti certo. Senta, un'altra cosa, non hai contratto nazionale, un'altra cosa l'ha citata lei prima, perché un luogo dove veramente lo sfruttamento prevale su qualunque forma di, non solo di profitto, che è normale che un imprenditore chieda profitto dall'attività che svolge, ma proprio anche sulla dignità umana e il lavoro, è la questione del lavoro nei campi, la raccolta della frutta e il caporalato. 3 persone sono morte quest'estate. Possibile che nessuno si sia accorto di niente in questi anni? Ma noi per la verità l'abbiamo denunciato tante volte, forse lo dovevamo denunciare con più forza. In questo paese, in questi ultimi anni, si è demolita l'autorità ispettiva che si occupa di controllo. Non so se avete visto i video di come avviene in Puglia la raccolta del caporalato, non solo di migranti ma di italiani, sono cose tutte alla luce del sole, e tra l'altro questi lavoratori hanno un contratto di lavoro in cui vengono, e buste paga finte in cui vengono segnate molte meno ore, in cui è chiaro che sono realtà dove non c'è sindacato ma l'ispettorato al lavoro non ha nessuna, ma non sarebbe anche quella in mezzo per arrivarci? No, chiaro, la questione problema dell'ispettorato è chiaro, però anche per voi sindacati è una questione che vi interroga, non dovreste essere lì presenti in mezzo a quelle persone, anziché adesso faccio la vulgata di chi ci sta ascoltando e può pensare, i sindacati in calo di tessere, con crisi, con scandali per quanto riguarda gli stipendi, pensionati iscritti, e nei campi si muore e nessuno tutela questi lavoratori, in alcuni campi, in alcune zone chiaramente. Ma intanto questi scandali per gli stipendi mi sembra che siano assolutamente ridimensionati, un po' più che sono, hanno nutrito colonne che in realtà, insomma, si parla di questioni di poche unità, ci sono migliaia di sindacalisti che appunto fanno della trasparenza la loro cultura sindacale e soprattutto la stragrande maggioranza dei sindacalisti, però sono d'accordo, il sindacato deve essere lì. Lì però c'è un problema. Noi siamo passati da qualche anno fa in cui si vedeva in quegli stessi campi lo scempio di prodotti dell'agricoltura che venivano macerati perché non c'era la possibilità di spedirli nei mercati e così via. E siamo passati a quest'ulteriore scempio di civiltà umana che è pagare le persone 4 euro l'ora. Lì c'è anche un problema politico, no, adesso non la voglio buttare in politica come si suol dire, ma se un pomodoro viene pagato pochi centesimi di euro alla produzione e viene pagato parecchi euro alla vendita, c'è anche un problema di come è organizzata il mercato. Noi abbiamo una produzione agroalimentare che sarebbe di grande successo, è chiaro che se sono pagati pochi centesimi, l'alternativa è che lì, per cui non può passare sicuramente la logica dello sfruttamento, però sicuramente c'è anche lì un mercato da organizzare. E l'altro elemento è che lì ci sono dietro degli italiani. Questi italiani che danno delle buste paga false sono dei criminali, non sono dei furbi. E allora anche questa è l'altra cultura che bisognerebbe in qualche modo un po' affermare, perché questo paese ha un po' perso anche su questo il senso delle parole. Poi se lei aggiunge, ma forse il sindacato poteva fare di più, ma sicuramente, noi non siamo di quelli che si autoassolvono rispetto a tutti i problemi. La Puglia è la terra dove nasce Di Vittorio, che è cresciuto sindacalmente come organizzatore proprio dei braccianti agricoli. È una vergogna che fa rivoltare Di Vittorio nella tomba, che proprio in quelle terre accadono. Quindi chi manda a lavorare le persone in questi campi, secondo lei, è un criminale? Ci vorrebbe un reato nuovo, pene aumentate? Che cosa ci vorrebbe? Attualmente cosa rischia un caporale se viene preso? Poco, ma troppo poco? Intanto rischiano pochissimo, perché può essere... Immaginate, paradossalmente, se ci sono delle buste paga vere, rischia di non essere neanche perseguite. Lei parlava di Melfi. Noi, prima che nel 93 fosse insediato Melfi, abbiamo fatto un questionario sui 7.000 ragazzi che andavano a lavorare in quegli anni a riempire questa grandissima fabbrica nella piana di San Nicola. La stragrande maggioranza delle persone che arrivavano da ex lavoratori e non da disoccupati a quella fabbrica raccontavano che tutti venivano da lavori con buste paga false. E questo significa che il problema dell'illegalità è diffuso, e guardi che il lavoro nero è una piaga che c'è dalla Lombardia alla Sicilia. Quindi è se volessimo mandare un messaggio al governo è di ritornare indietro su questi tagli che sono stati fatti all'ispettorato del lavoro. Assolutamente, perché quei controlli sì, erano efficaci, secondo lei? Ma assolutamente sì, e inasprire le pene, e questo serve ad aiutare chi invece fa agricoltura onestamente, perché c'è chi paga tutta la busta paga e chi difende tutti i diritti e fa impresa nell'agroalimentare senza utilizzare, e questi fanno dumping in questo modo, e per cui rischiano di buttare fuori mercato proprio chi sta dentro la legalità. Il governo non può premiare chi sta nell'illegalità, per questo le pene devono essere severissime. C'è un problema di certezza del diritto e delle sanzioni in questo paese, perché sennò tutti se stanno in tutti gli ambiti, dall'evasione fiscale alle leggi sul lavoro, di farla sempre franca, e il rischio è che quella diventa la via dei furbi da imitare. Speriamo di no. Grazie Bentivogli, buona serata, grazie per essere stato con noi. 800 24 00 24, ci risentiamo tra pochissimo dopo la borsa. Dopo si può fare l'attualità anche d'estate. Eccoci qua, cari ascoltatori, di nuovo buonasera da Alessio Maurizio. Abbiamo appena parlato col segretario della FinCISL Bentivogli di lavoro. I caporali come criminali, bisogna aumentare le pene, avete sentito, bisogna aumentare anche i controlli. Lavoro e stress, però c'è un caso, certo, che può far sorridere, passare dai caporali e dalla gente che sta nei campi a raccogliere la frutta, al caso invece della top model Cara Delevingne, modella britannica, che è notizia di oggi su tutti i giornali di oggi, ha deciso di abbandonare le passerelle perché troppo stress. Ha detto: ti spremono come un limone, poi ti buttano via, non ce la faccio più. Ora, premesso che lei avrà guadagnato talmente tanto da mettere i soldi da parte per il resto della sua vita, però deve essersi stressata veramente tanto se è arrivata al punto di rinunciare a una carriera super brillante come questa. Allora noi vi chiediamo questa sera, cari amici ascoltatori, che cosa vi stressa a voi molto, moltissimo, tanto da decidere a un momento di mollare tutto, che ne so, le code in mezzo al traffico, oppure la sveglia al mattino per andare a lavorare presto, la catena di montaggio. 800 24 00 24. Andiamo con gli interventi degli ascoltatori fin da subito con chi chiamiamo? Francesca da Milano, buonasera. Buonasera, buongiorno. Prego. Buonasera a tutti voi. Io faccio un passo indietro, torno a ieri, sì, perché avrei voluto intervenire a proposito del discorso. Cioè, ritorno, lei mi sente? La sento benissimo, la sentiamo benissimo. Ah, va bene. Vada, Francesca, sì. niente, siccome ieri è intervenuto un vostro ascoltatore di Roma, mi pare, sì. E vabbè, solito discorso dei politici, tutti uguali, sì. Allora, è vero, da una parte è vero, però poi quando si dice non sono tutti uguali, uno pensa, sì, chiaro, c'è sempre politico onesto, sono pochi ma ci sono. Allora, giusto per precisare, per onestà, sì, intellettuale, infatti ieri avrei voluto dire che per me la maggior vergogna... cosa deve precisare Francesca, però vada, perché altrimenti, ecco, perde un sacco di tempo. Sì. Allora, mi scusi, ecco, volevo precisare che, non so, non, siccome non sono pochi, c'è il Movimento 5 Stelle che ha rinunciato a tutto quello che secondo me ogni politico dovrebbe fare, questa rinuncia. Quindi non dico che sono bravi loro, intendiamoci, però per onestà va detto. Dal suo punto di vista, sì, cioè, per lei sono bravi, o penso che lei li ritenga bravi, sì, no, per quello che hanno fatto. Sì, certo, no, non sono bravi nel senso che io lo pretenderei da tutti. Da tutti. Però, da tutti, sì, i politici. Sì, non rimborsi elettorali, non stipendi, insomma, taglio stipendi, tutto quello che loro fanno. Mm. Per onestà trovavo giusto precisarlo. Se mi consente invece, per quanto riguarda il discorso di oggi, sì, quando sento la graduatoria delle anime, sinceramente non so cosa pensare del genere umano. Gli animali possono essere, sicuramente sono differenti, non vedo perché soltanto la presunzione umana può farli pensare inferiori. Ma no, ma guardi che lì è una questione tecnica, perché la Chiesa, lei insomma lo sa meglio di me, diciamo, è depositaria del concetto in sé di anima, anche da un certo punto di vista, e quindi dal punto di vista della Chiesa, Don Forte, certo, ieri ci ha fatto la graduatoria delle anime, questo. Sì, ma guardi, è una se a lei non interessa la Chiesa può stare tranquilla, Sì, no, per carità. Se lei però, non è credente, ecco, può stare tranquilla. Essere, come genere umano, cioè come dovremmo sinceramente risparmiarci queste cose, perché sono veramente avvilenti. La graduatoria delle anime, ma lei si rende conto? Sì, io mi rendo conto, io sono d'accordo con Daniele Forte, per me conta di più l'anima di un essere umano dell'anima di un cane o di un gatto, io sono d'accordo con lui, lei evidentemente no. Ascolti, ammesso, mi dica, che ci, sì, sia l'anima, fargli una graduatoria sinceramente... Sì. Non so, allora. Ma le ripeto, davvero, guardi, le ripeto, guardi, lei è credente? Non credo in Dio. Ecco, allora, se non è credente, non si preoccupi, perché quella è una questione che riguarda la Chiesa. E abbiamo intervistato, certo, Don Forte per quello, perché ha dato un, certo, punto di vista su interno alla Chiesa. Se lei non è credente, sì, però, sia tranquilla e continui a pensarla come vuole lei. Sì, ma assolutamente, sì, ma infatti non era una critica a chi la pensa o non la pensa in un certo modo, è che non lo so, ho fatto un percorso di vita, è avvilente sentir passare e parlare di graduatoria. Va bene, ma Francesca, abbiamo capito, grazie, buona serata, grazie. Andiamo con chi andiamo? Con Franco da Genova, buonasera. Buonasera. Prego. Pronto, allora io sarò breve, io sono un artigiano, sto lavorando, sono del 1934. Complimenti. Sono qui che lavoro un laboratorio, sono un laboratorio autonomo, e volevo dire questo, che quando c'è lavoro si fa, a parte la Chiesa o non la Chiesa, e che la rovina del lavoro in Italia sono i sindacati, e soprattutto la CGIL. Io, perché ad esempio, io sono qui che lavoro, ho 82 anni. Sono fortunato, ma lei... perché c'ho la salute. Assolutamente. Ma lei che di cosa si occupa? Che lavoro fa? Io faccio il tappezziere in stoffa. Tappezziere in stoffa. E io per anni ho lavorato anche di domenica e anche di sera. E mi sono comprato 4 muri di casa, lavorando. Rovina del lavoro in Italia sono i sindacati. Che se uno si dà una martellata in un dito, fanno sciopero. Questo volevo dire, potrei parlare per un mese. No, vabbè, magari per un mese no, ma se vuol dire ancora qualcosa. Senta, allora, Franco, ma lei questo, ha qualcuno che lavora? Scusi, Franco, le faccio una domanda, Franco, un attimo. Le faccio una domanda, lei ha qualcuno che lavora lì con lei o lavora da solo? No, io adesso sono solo perché mi piace il mio lavoro, potrei andare in pensione. Ma quando smetterà non lascerà nessuno la sua attività? E non c'è nessuno che vuole fare questo lavoro. Perché è un lavoro di sacrificio il suo. Ci vuole anni. È un lavoro di sacrifici il suo. Io lavoro ancora l'antica con le molle d'acciaio, col crine, con l'ovatta, che queste industrie qua dei divani non sanno neanche cosa sia quella roba lì. Lì sono tutti blocchi di gomma piuma già sagomati che li buttano lì e buonanotte. Ma lei cosa fa? Tappezza i divani rotti? Cioè ho il divano rotto, glielo porto, lei me la aggiusta? Io faccio sia riparazioni che nuovo, tutto dall'A alla Z. Perché io è 60 anni che faccio sto lavoro. Io sono del 1934 e siccome mi piace il mio lavoro e adesso io ho tanti clienti e di conseguenza continuo a lavorare perché mi piace e potrei andare in pensione. Continuo a fare i versamenti, io ho 55 anni di versamenti. Quello che volevo dire era questo come esempio. A Genova nel 2012 c'era la Fincantieri che stava terminando una nave di quelle enormi della compagnia americana Ocean, erano in ritardo e stavano facendo sciopero e con le falce e il martello. Questo io lo dico, vorrei che mi sentissero i compagni, perché io sono assolutamente anticomunista, perché è gente che del chi fa meno. Però Franco, scusi, adesso lei ha detto giustamente, ha raccontato la sua storia, quello che vuole, però non è che i sindacati sono i sindacati sono serviti anche per acquisire dei diritti, no, in passato, lei lo sa meglio di me. La CGL particolarmente, sì. E la compagnia americana Ocean ci chiedeva 300.000 euro al giorno, ogni giorno. Grazie di Franco, io mi fermo qua perché è chiaro che con lei potremmo aprire un archivio della memoria per quanto riguarda il lavoro, ma non solo. Comunque era interessante, il suo concetto è: quando c'è il lavoro, io sono un artigiano, si lavora andando avanti senza fermarsi, e questo è il messaggio che manda, diciamo così, un po' a tutti in generale. Franco da Genova, Vincenzo da Milano adesso, buonasera. Pronto, sono pronto, in linea. Sì, tocca a lei. Volevo dire il concetto dei lavoratori al sud che li pagano poco. Sì. Saluto a tutti, che io scusate se mi confondo a parlare. Il concetto è questo: come le arance di Rosarno e i pomodori della Puglia e altre olive che ci sono in Calabria, sì. Il problema è questo: quando la roba arriva al mercato ci sono quelli che arrivano dall'estero che li danno a metà prezzo. Ora, se il contadino o chi raccoglie i pomodori o le arance deve pagarle a tutti i diritti sindacali, quelli che lavorano, lui non ci sta dentro col prezzo, non ci sta. E quindi cosa succede? Che quando li porta al mercato costano il doppio di quelli che portano poi dalla Cina o dalla Spagna o dal Marocco. Le arance li portano dal Marocco, da tutte le parti. Questo è il problema grosso. Sì, quindi sì. Noi o lavoriamo come i cinesi a basso costo, a basso prezzo, a basso stipendio, diciamo, o se no non ci possiamo stare nel mercato. Questo è il problema della globalizzazione. La gente lo deve capire. Perché sì, sì, è vero, Vincenzo, però ci sarà pure un punto di equilibrio, un sistema per migliorare questa situazione ed evitare di morire sotto il sole nei campi in Puglia e portare avanti comunque l'agricoltura in Italia. A livello sindacale gli operai, il prezzo dei pomodori raddoppia. Questo è il concetto, e quando va al mercato alla massaia prende quelli che costano meno. Va bene Vincenzo, grazie. Questo è innegabile, e questo è un problema, l'ha sollevato anche Bentivogli. E io ripeto, ci sarà pure una soluzione, è che ci possiamo arrendere a questo e fermarci lì? Io non credo. Raffaella da Firenze, buonasera. Sì, ciao, buonasera. Ciao. Raffaella? Cioè, ha avuto molto entusiasmo all'inizio e poi è sparita. Andiamo allora con Stefano da Belluno. Buonasera Stefano. Sì, buonasera. Prego, tocca a lei. Io chiamavo per la questione di cui si discuteva in particolar modo ieri sera sul fenomeno della gestione dei richiedenti asilo. Sì. Volevo solo portare una testimonianza positiva. Io chiamo da Belluno. Noi siamo un consorzio di cooperative, abbiamo 5 cooperative che lavorano sull'accoglienza, gestiamo ad oggi circa 250 persone, e volevo segnalare che attraverso l'impegno da una parte di funzionari della prefettura che fanno bene il loro lavoro, sindaco e assessori comunali bravi, volenterosi, che non si girano dall'altra parte, e poi per ultimo metto anche il pezzettino nostro che gestiamo abbastanza bene la cosa, il risultato per esempio nella nostra provincia è molto positivo. Va bene. Pronto? Sì, sì, sì, la sento Stefano, grazie. Grazie anche a lei, buona serata. Andiamo, cioè abbiamo il traffico o facciamo un ascoltatore ancora? Ascoltatore, Alessandro da Bergamo. Alessandro, buonasera. Pronto? Sì, prego. Mi sentite? Sì, buonasera. Volevo intervenire in merito all'intervento che ha fatto il vostro ospite, il sindaco, il vice sindaco di Acqua Formosa. Sì, ieri sera. Partivo da un dato e da una considerazione. La Lombardia ha un residuo fiscale annuo di 50 miliardi di euro. Significa che sono soldi che non tornano più al mittente sotto forma di servizi. Potrei fare l'elenco anche delle altre regioni. Cosa vuol dire residuo fiscale? Scusi, spieghi meglio. Il residuo fiscale sono quei soldi pagati ovviamente dai contribuenti che non ritornano al mittente sotto forma di servizi. E quindi sono, diciamo, un netto che colui che paga le tasse, la regione, diciamo, in questione, sì, non riceve più, né sotto forma di servizi che possono essere strade, asili, servizi alla collettività che risiede in quella regione. Allora, quindi... questo è il dato. La considerazione è un Nord che va a doppia velocità, perché di fronte a questi numeri è costretto a lavorare e, diciamo, trainare un paese che è mal gestito. Diciamo, cosa c'entra così, però Acqua Formosa? Non ho capito assolutamente. Adesso cosa c'entra. Acqua Formosa. Ah, ecco, sì. Questa era la considerazione. Per Acqua Formosa, dico, il vice sindaco diceva: io utilizzo soldi dei bandi piuttosto che di soldi europei. Allora, utilizzare i soldi di bandi al ministero significa attingere ancora in questo grosso serbatoio del residuo fiscale. Non sono soldi che non pesano sulla collettività, anzi, e come tali però dovrebbero essere investiti per creare lavoro, non per fare magliette, piuttosto che dire che ci sono paesi delegittizzati e perdere tempo facendo questi vademecum. No, il Festival di Acqua Formosa non riceve contributi pubblici, guardi, ce l'ha detto molto chiaramente, c'è il patrocinio di un ente pubblico, del governo, ma è solo, come dire, un marchio, non ricevono soldi pubblici, questo è quello che ci ha detto lui, quindi il discorso che fa lei non sta in piedi. Grazie, Traffico, ci risentiamo tra poco. Si può fare l'attualità anche d'estate. Nessuno sa cantare, sono come un uccellino. Senti il grillo, stanco a sentire queste note così basse che so fare. Poi vado a proposito di stress, una cosa che potrebbe stressare abbastanza è sentire che i dirigenti della regione Emilia-Romagna sono tutti così bravi da avere incassato il premio di produttività a fine anno. Buonasera all'assessore al bilancio delle risorse umane dell'Emilia-Romagna, Emma Petitti. Buonasera. Buonasera a voi, salve. Intanto anche grazie per essere comunque venuta a sostenere una tesi non facile, cioè che il punto è quanti dirigenti parliamo? Tutti premiati a fine anno con premio di produttività, e il dubbio che qualcuno magari non proprio bravo al 100% ci fosse stato c'è, ce lo consenta. Di quanti dirigenti parliamo? Parliamo di 16 tra dirigenti e direttori per un... risultato variabile, perché poi è questo che prevede il contratto, sì, che ammonta a circa 40.000 euro complessive. Parliamo di questa cifra qui. 40.000 euro per 16 dirigenti. Noi abbiamo letto 340.000 di premi di produttività. 20.000, sì, 20.000 euro circa per ogni dirigente. Beh, non è poco. 20.000 euro può essere anche lo stipendio medio, di magari basso, ma di un operaio. Quindi non è proprio poco come premio di produttività. Il punto però che ha sollevato le critiche è che tutti in questa valutazione sono stati promossi. Possibile? Guardi, noi, questo ci può dirlo in modo molto chiaro, ereditiamo quella che è una situazione chiaramente della giunta precedente, perché parliamo di una valutazione legata al 2013-2014. Quando voi non eravate in carico. Esattamente. Quindi, cosa succede? Quando si parla di variabili di risultato che sono previsti dal contratto per i dirigenti, ci sono degli standard nazionali, no? Cioè una valutazione che viene fatta valutando quelli che sono stati i criteri con cui hanno operato questi dirigenti, cioè se hanno chiaramente portato a casa i risultati che però erano scusi, la valutazione a chi l'ha fatta? L'avete fatta voi che adesso siete in carica? No, ci sono dei gli indicatori vengono concordati con un organismo che è indipendente ed esterno di valutazione, poi chiaramente ci sono gli obiettivi che erano legati alla precedente giunta. E chi è che ha in mano questo organismo di valutazione dei dirigenti? Beh, a livello finale la giunta ha dovuto varare l'atto, però noi abbiamo voluto valutare se questi risultati attraverso questo organismo indipendente erano stati raggiunti. E questo organismo da chi è composto, scusi? Ci sono figure esterne che in qualche modo hanno dovuto valutare la comparabilità tra i criteri e i risultati. Ma figure esterne parliamo di che cosa? Di consulenti, professori, di chi? Sì, figure comunque figure esterne all'ente, non loro stesse. E quindi questa commissione di figure esterne all'ente, che sarebbe comunque interessante sapere da chi è composta, perché mettiamo che siano composte da persone che poi possono avere degli incarichi anche da questi dirigenti, è ovvio che no, va da sé che il giudizio può essere positivo per un conflitto di interessi, però lei non mi dice chi sono i componenti di questa commissione, quindi io questo non lo so, non lo posso sapere. Sì. Io però sottolineo il fatto che rispetto agli anni precedenti noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo aumentato il livello rispetto a quello che è stato anche il criterio con cui andavamo a valutare l'andamento generale, quindi sostanzialmente abbiamo fatto in modo che la valutazione fosse molto più puntuale, più rigorosa, tant'è che sono stati abbassati questi premi rispetto all'anno precedente, questo è documentabile dalle cifre, dai numeri, e soprattutto visto che noi ci siamo insediati quest'anno e quindi come dire verremo misurati dal prossimo anno rispetto a quello che noi produrremo nel primo anno. Però ha capito qual è il rischio? Che voi verrete misurati il prossimo anno, questi che vengono premiati adesso, lei dice non è colpa mia ma sono quelli dell'anno scorso e fra due anni sarà la stessa cosa con lei, magari non ci sarà più lei, ci sarà un altro e il cittadino però deve fare conti con questo, 20.000 euro di premi per dei dirigenti che guadagnano 100.000 euro l'anno, non poco, senza capire bene perché. Ma lei ha ragione, proprio perché il cittadino deve fare i conti con quello che produce l'ente pubblico. Io ci tengo a sottolineare che noi appena ci siamo insediati, siccome abbiamo dovuto fare il bilancio del 2015 approvato entro la fine di aprile perché eravamo in esercizio provvisorio, le dimissioni anticipate del presidente Errani, l'insediamento della giunta Bonaccini prima del tempo, noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto un bilancio avendo 61 milioni di euro in meno dalle risorse nazionali che ha tagliato 15 milioni ai costi della politica subito, è stato il primo atto che abbiamo approvato in assemblea, 6 milioni alle strutture e abbiamo già messo in campo una riduzione per quanto riguarda gli stipendi di tutto il settore sanitario che ci produrrà per tutta la legislazione 13 milioni di euro in meno. Come dire, tutto quello che noi possiamo fare per ridurre i costi dell'organizzazione e della struttura e quindi mettere quelle risorse che andiamo a risparmiare nell'efficienza dei servizi, nell'efficientamento, nella qualità dei servizi, noi lo stiamo facendo. Per questo le dico, anche rispetto al criterio di valutazione su cui noi stiamo mettendo in campo un sistema che avanzeremo e presenteremo da qui a fine anno. Però mi dica una cosa, assessore, visto che lei è in una giunta che come primo atto mi dice, e io ci credo perché le ho lette anch'io i giornali, avete varato questo taglio dei costi della politica, degli stipendi, eccetera, eccetera. Solo, che però, scusi, che un risparmio che però vedremo col tempo, al momento si parla di una situazione che deve maturare e poi vedremo di fare conti alla fine col tempo. Sì. Però le chiedo, lei alla luce proprio di questo, questi premi a questi dirigenti, come li valuta? Come una cosa che è sfuggita da una roba precedente? Lei non l'avrebbe fatto? No. Sarebbe stato... Io valuto, guardi, ne abbiamo discusso bene, abbiamo ereditato questa situazione, siamo stati rigorosi in questa valutazione con gli strumenti a nostra disposizione. Quello che io posso dire è che dai prossimi anni, e quindi dal 2016, ma già dai prossimi mesi, perché stiamo valutando un sistema più rigoroso e puntuale, vogliamo dare obiettivi più sfidanti, come dire, alzare la sticella. E questo, come dire, credo l'obiettivo politico che deve interessare i cittadini, che si produca sempre di più e sempre meglio da un ma bisogna per forza dare dei buoni, bisogna per forza dare degli obiettivi economici a dei dirigenti che guadagnano già 100-120 mila euro l'anno in una situazione di crisi come questa? Non si può fare senza obiettivi economici? Noi stiamo anche valutando, per ora lo prevede il contratto, per quello che abbiamo ereditato questa situazione, tra l'altro prevista dagli standard nazionali. Siccome ieri il consigliere della Lega Alan Fabbri ha gridato alla vergogna rispetto alla regione Emilia Romagna, mi piacerebbe sapere cosa fanno Zaia o Maroni rispetto ai costi della politica in quelle regioni governate dalla Lega. Però al di là di questa polemica politica, quello che io dico è che sicuramente valuteremo anche il fatto di poter togliere la retribuzione del risultato dei dirigenti nei prossimi contratti. È una valutazione che faremo in modo molto serio, in modo molto oculato, dentro un sistema complessivo che prevederà da qui alla fine dell'anno anche la riduzione di tutte le posizioni apicali della regione, quindi dirigenti e direttori. Dove è possibile noi andremo a tagliare drasticamente. Perché lei è d'accordo con me che un premio del 20% anche dello stipendio è un premio abbastanza generoso? Io ritengo che assolutamente si possa vedere questo criterio, non trovo scandaloso rivedere questo criterio nella maniera più assoluta. Mi interessa garantire però l'efficienza dei servizi e soprattutto, e questo è per questo che io dico che noi l'abbiamo già dimostrato nei fatti, appena insediati, come dire, aver tagliato i costi alla struttura, i costi alla presidenza della regione, i costi della politica, aver ridotto già il numero dove era possibile farlo, l'abbiamo fatto subito nella sanità perché lì è possibile farlo, il contratto con i dirigenti della sanità ti prevede di farlo subito, lo faremo sulla macchina organizzativa della regione da qui a fine anno. Abbiamo già preparato un piano delle partecipate che nel 2016 ci permetterà di dimezzare le partecipate. Come dire, un criterio di valutazione dei dirigenti che si rifaceva al vecchio modello, che noi abbiamo applicato anche in questo caso con rigore, io lo valuterei con la lente obiettiva che merita. Parliamo va bene, di 100.000 euro che valuteremo anche in futuro di cambiare e migliorare, perché questo è il nostro scopo. Grazie, buona serata all'assessore grazie Petitti. Grazie a lei, grazie a voi, buonasera. Assessore Emilia Romagna, che insomma, come dire, non so se vi ha convinto. A me non molto, forse poco, ripeto, tutti i provvedimenti che sono stati varati, che sono scritti sui giornali, il taglio, questi 15 milioni che lei ricorda, di taglio complessivo ai costi della politica, delle strutture dirigenziali eccetera eccetera, sì è vero, da adesso in avanti sono previsioni di risparmi, invece questi bonus, questi 340.000 euro, quelli sicuramente sono stati pagati adesso. Abbiamo ancora un paio di minuti per chiudere con un ascoltatore, Beniamino da Roma, buonasera. Beniamino, prego. No, non c'è Beniamino. Sì, buonasera, sì. Buonasera, mi sente? Sì, la sento, Beniamino, prego. Buonasera, vorrei soltanto intervenire in merito alle affermazioni del, non ricordo, del sacerdote per quanto riguarda Don Daniele Fort, che sta scatenando Don ovviamente Daniele una serie Fort. Di reazioni di pancia di tutti gli amici degli animali. Sì, io sono un amico degli animali, purtroppo, perché sembra che insomma per tanti sia una pecca. Io... Ma anche Don Daniele ha detto che è amico degli asini, che sì, utilizza sì, certo, per fare il suo palio, sì, e nessuno muore, nessuno è maltrattato, certo, eccetera. Sì, eccetera. Sì, certo, come no, certo, a fine palio poi magari li accarezza, vabbè, lasciamo perdere. Ma perché, sono amici degli animali e poi se ne nutrono, sì, li ammazzano, li maltrattano, sono tutti amici. No, però, guardi, lì non è morto nessun asino al palio del musso a Porzia, quindi non... Vabbè, meglio così, è una buona cosa. Comunque sia, per quanto riguarda le dichiarazioni del prete, io vorrei dire, ma chi è che fa queste dichiarazioni, mi perdoni? Una persona come me, come lei, una persona che fa un lavoro diverso dal mio e dal suo, una persona che le cronache ci hanno abituato a appartenere ad una schiera che è molto incline al peccato, ragion per cui io del parere... Ma di chi sta parlando? Chi è questa schiera incline al peccato? Questa schiera di persone incline al peccato? Il prete appartiene ad una categoria di persone che sono incline al peccato, giusto? Ma no, ma cosa sta dicendo? Ma come? Cosa vuol dire dicendo? Che sono incline? Allora, guardi, io la morale me la faccio fare da chi è meglio di me, non da chi è peggio di me, giusto o no? Ma allora se lei del prete non gliene frega nulla, perché si accalora tanto? Lasci perdere. No, guardi, io sono un cattolico, non sono molto praticante, ma sono un cattolico. Devo dare la linea al giornale radio, devo dare la linea, ci risentiamo dopo. Diceva Einstein, è più facile spezzare un atomo che un pregiudizio. Indovina chi viene a cena, si occupa di identità e preconcetti, in cucina come negli incontri che facciamo. Ogni settimana ospitiamo un italiano con radici altrove che racconterà la sua storia anche attraverso un piatto. Fra couscous e risotto intorno ai fornelli si parlerà di contaminazioni e false credenze, verso il cibo e non solo. You've got to... Sono Valentina Furlanetto e vi aspetto ogni sabato alle 23 con Indovina chi viene a cena e quest'estate anche la domenica alle 13.30. Dall'ascesa dello Stato Islamico all'immigrazione verso l'Europa, dal boom economico dell'Africa ai suoi infiniti conflitti. Giornalisti, fotografi, analisti, politici, operatori umanitari e cittadini saranno ogni giorno ai nostri microfoni per raccontare ciò che accade al di fuori dei nostri confini. Sono Giampaolo Musumeci e anche quest'anno vi dimostrerò che tutti i luoghi meritano di essere visitati, che tante storie devono essere raccontate, che guerre dimenticate e vicende apparentemente distanti sono molto vicine a noi ed entrano ogni giorno nella nostra vita. Vi dimostrerò, insomma, che nessun luogo è lontano. Da lunedì al venerdì alle 16, qui su Radio 24. Si può fare. L'attualità anche d'estate. Far sapere a tutti che quando in occasione del Natale sono stato invitato a celebrare la messa con i dipendenti e le loro famiglie e mi è stato chiesto di benedire i due nuovi modelli della Fiat, la Renegade e la 500X, sa che cosa mi hanno detto i dirigenti? Padre, da quando ha fatto quella benedizione siamo stati sommersi da una pioggia di richieste di acquisto. Un vero miracolo. Il miracolo di Monsignor Todisco, lo avete sentito, quello che ha chiesto a Marchionne di non far lavorare la fabbrica di Melfi la domenica per non mandare di traverso il riposo e anche la riunione familiare, ma anche il giorno della preghiera alle famiglie dei dipendenti della Fiat. Avete sentito? Le vendite delle Fiat sono aumentate dopo che sono stato a benedire la fabbrica. Sulla musica di Sister Act, da un prete all'altro, cari amici ascoltatori, 800 24 00 24. Abbiamo chiuso la prima parte della puntata con la telefonata di un ascoltatore che si lamentava di cosa? Delle parole di ieri sera di Don Daniele Fort, il quale, a proposito degli animali, degli animalisti, delle polemiche sul Palio di Sena o il Palio dei Mussi, quello che si svolge a Porsia, dove sta Don Daniele, ha detto gli animali non hanno un'anima, anzi poi ha corretto, gli animali hanno un'anima ma gerarchicamente meno importante dell'anima degli esseri umani, quindi non bisogna maltrattare gli animali naturalmente, però non bisogna neanche idolatrarli. 800 24 00 24. A noi piace molto anche la polemica tra Sgarbi e il nuovo direttore degli Uffizi, Schmidt. Ma mica tanto così giovane, oramai ho 47 anni, quindi ho già qualche esperienza alle spalle, direi. Il ministro deve avere i coglioni di decidere, ma non soprattutto di perché di delegare a Baratta nominato una selezione di tre di cui sceglie lo stipendio, non se lo può permettere lo stipendio delle... film anni 80 vanno a rotazione in queste sere d'estate su tutte le televisioni, nonostante gli anni è uno degli showman ancora più apprezzati e più seguiti, di quelli che riempono i teatri. Ieri sera ha tenuto la classica serata per il compleanno della capannina in Versilia e con noi Jerry Calà. Grazie del collegamento, poi bello risentire quella fantastica sigla proprio marchiata anni 80 della serie televisiva Professione Vacante. Tac, ti è piaciuta? Avete fatto un'apertura perfetta. Mi piace, sono contento. Senti, sarà veramente l'effetto nostalgia, no? Però questi film sono sempre fortissimi, vanno molto. Cioè, erano film un po' tamarri, diciamolo, però con uno stile che forse adesso non c'è più, o no? Sì, infatti io lo dico sempre, forse i film di oggi sono più corretti, sono fatti meglio. Però voglio dire, quei filmetti lì che facevamo noi negli anni Ottanta, si vede che avevano quel qualcosina in più. Erano ruspanti e divertenti. Sono rimasti però, sono rimasti dei cult, tanto è vero che, voglio dire, d'estate riempiono i palinsesti con i miei film tutte le reti, insomma, per cui ci sarà un motivo. Ci sarà un motivo, se no non rimanderebbero in onda. Senti, no, perché io vedo, no, che sì, poi appunto grazie a questo anche i ragazzi più giovani che negli anni Ottanta non erano ancora nati, sì, riconoscono questo diciamo X Factor di quei film e li vedo venire poi ai miei spettacoli in teatro, nei locali, e di fronte a questa gioventù io rimango stupito, dico: ma voi cosa ne sapete di me? No, noi sappiamo tutto, guardiamo tutti i tuoi film, sono più belli di quelli che adesso. Ma sono soddisfazioni, diciamo la verità. Senti, ieri sera uno di questi spettacoli alla Capannina per il compleanno della famosa discoteca, chi invecchia meglio, tu o la Capannina? Ce la battiamo bene, oddio. Tu ancora hai poco più di 60 anni, quindi non possiamo parlare di vecchia. La Capannina di Fosse dei Marmi ieri sera ha compiuto 86 anni, credo che sia uno dei locali più antichi del mondo, che è rimasto, diciamo, abbastanza intatto nella sua immagine, nella sua fattura. Io sono mi avvio verso il 19° anno che tengo, nel quale tengo banco d'estate, sì, tutti i mercoledì di agosto e anche altre serate nell'anno, insomma, è un bel record. Sei in forma. Il teatro è sempre, voglio dire, Piero, ieri c'erano oltre 3.000 persone, veramente è emozionante per me, perché quando apro quella porticina esco fuori e vedo tutta quella gente che mi acclama, insomma, sono è una bella emozione, insomma. Ogni volta ti domandi: ma ci sarà ancora gente che mi viene a vedere? Invece sì. Invece quando apro quella porticina e vedo pieno, insomma, è sempre bello. Senti, però, scusa, adesso voglio farti quasi fare una cosa, no? Perché quest'estate per le discoteche, binomio droghe discoteche, è stata un po' un'estate brutta. Ci sono stati 3 ragazzi morti, poi si è scoperto che uno non aveva nulla a che fare, aveva una malformazione cardiaca, eccetera, eccetera. Ma, certo. Questo fenomeno, sì, no? È sempre esistito, nello sbar, perché ci si, certo, stupisce? Io ci ho fatto un film nel 94-95, non mi ricordo, che si chiamava Ragazzi della Notte, perché io sono sempre stato molto vicino ai ragazzi, mi interessano, insomma, i problemi, capire le cose. E io già nel 94-95, e poco è cambiato, ho fatto un film dove descrivevo appunto una notte di ragazzi in giro per le discoteche, dove però facevo, il mio pensiero era quello di dire che sì, le discoteche sì, avranno i loro problemi, ma i problemi dei ragazzi non cominciano in discoteche, i problemi dei ragazzi cominciano non la notte ma all'alba, in famiglia, a scuola, voglio dire, lo sappiamo tutti che, insomma, che, sì, che la droga la trovano ovunque. Sappiamo anche tutti che i ragazzi costerebbe troppo stravolgersi in discoteca anche con l'alcol, quindi si comprano le bottiglie nei supermercati prima di andare, certo, è vero. Si stroncano prima e dopo, insomma, in discoteca magari bevono una Coca-Cola, capito? Però, tu adesso sei diventato anche papà nel frattempo, per cui cambia la prospettiva, guarda, dalla voglia di divertirsi, far casino, andare in discoteca, avere un figlio che ti pone qualche preoccupazione in prospettiva? Beh, certo, più lo vedo crescere, più vedo magari intorno, specialmente adesso che siamo in spiaggia, no? Che vedo anche le altre famiglie che invece hanno i figli più grandi che cominciano a dire: no, non ci vai stasera, no. Già incomincio a agitarmi, perché poi io sono un padre molto apprensivo, però il lavoro che sto facendo con mio figlio è quello di fargli capire bene queste cose e fargli capire i danni che possono avere e fargli capire che il divertimento è altro e non è lo sballarsi o lo stravolgere. Però poi lascia parlare, capire, e però lasciare poi liberi i figli anche di fare il casino che abbiamo fatto noi quando eravamo ragazzi. Certo, ma però noi facevamo un bel casino, voglio dire, ci siamo molto divertiti. Io ho il sospetto che questi ragazzi non si divertono, perché io certe volte vado in certi posti e vedo questi ragazzi giovanissimi con dei bottiglioni di 3-4 litri di vodka sul tavolo. Ma cosa cavolo, come cavolo si divertono così? Perché dopo tre bicchieri di vodka tu non... Dura poco il divertimento lì, perché dopo 4 minuti sei da buttare via. Senti, ma tu sei in spiaggia adesso? In questo momento? Sì, perché a me piace... T'abbiamo strappato la vacanza. Piace rimanere fino all'ultimo in spiaggia a vedere il tramonto. Adesso io sono a Baia Sardegna, sentite sì. Anche un venticello. Sentiamo infatti questo venticello sì, sul telefono. Adesso abbiamo capito che cos'è, non è niente di strano, è l'aria di mare. È un tramonto meraviglioso sulla Maddalena. Senti, ma abbiamo letto quest'estate spiagge di nuovo piene, gli italiani sono tornati in spiaggia, finalmente la crisi sta un po' passando, c'è un po' voglia di divertirsi, è la prima estate da 10 anni a questa parte. Te ne sei accorto? Vabbè che tu frequenterai le zone da VIP, insomma, però... No, guarda, non solo, voglio dire, io diciamo ad agosto io anche per farmi un po' di vacanza e stare vicino alla mia famiglia ho scelto di lavorare meno e quindi di fare solo qualche data qua in Sardegna, in Costa Smeralda e appunto le date della Capanina, però io giugno e luglio vado ovunque, sono stato in anche altre spazi. E ti sembra che ci sia più movimento che negli anni scorsi, che ci sia questa ripresa di voglia di star fuori, di divertirsi, spendere un po' di più? Un pochino sì, ho visto anche e soprattutto poi io questa cosa la registro dall'entusiasmo o meno dei gestori, no? dei locali dove vado, sì. E li ho sentiti già a giugno, luglio, insomma un po' più pimpanti. Meno male. Senti, una cosa che è un classico dei film di Jerry Calà, no? Il sesso. Allora, non so se hai letto, è uscito in America il Viagra femminile, il Viagra rosa. Lo stavo leggendo proprio prima. Si promette una rivoluzione, chissà di che tipo. Come potrebbe entrare in una scena di un film tu una cosa così? Cioè, non so, è strano, no? Ah, non lo so. Bisogna fare un film nuovo. Inseguiti da donne anzianissime che per rinverdire la loro sessualità ne prendono magari 2-3 e cominciano a ricorrere per una spiaggia. Ecco, potrebbero anche essere, non lo so, bei momenti, chi lo sa. Però bisogna vedere se poi bisogna prenderla tutti e due, perché se la prende per solo all'altezza non ce la fai. Bisogna fare la pillola sincronizzata, secondo me. È vero, una che si divide in due, una cosa del genere. Penso proprio di sì. Vabbè. Comunque, ecco, per il sesso io invece, sì? Appunto nel mio spettacolo, prendo un po' in giro i ragazzi che durante lo spettacolo gli prendo un po' in giro e gli dico, ma voi cuccate? Perché dico, noi cuccavamo tantissimo d'estate, ma voi come fate, dico, a cuccare che... Fate aperitivo, apericena, cena, disco bar, discoteca. Si perde un sacco di tempo in queste cose, no? Poi anche per mangiarsi il panino con la salsiccia al baracchino fuori dal locale. Ma quando lo fate? Allora gli prendo in giro e gli dico che al massimo vanno giù di WhatsApp o si fanno qualche selfie, che ormai è diventato... È il massimo della trasgressione farsi un selfie. No, speriamo di no, speriamo di no. Grazie Jerry, ciao, buona serata. Grazie a voi, ciao. Ti aspetto in giro, ciao. Ci aspetta in giro dove? Così? È fantastico. Io credevo che fosse in Versilia, invece ha avuto già il tempo di spostarsi in Sardegna, perché ieri sera appunto era a festeggiare alla Capannina. Cari ascoltatori, ci risentiamo tra poco, dopo la borsa, e non so se abbiamo ancora in onda l'ascoltatore di prima che voleva contestare Don Daniele Forte, non lo so, sugli animalisti, vediamo dopo. Libidine! Si può fare l'attualità anche d'estate. Eccoci qua, cari ascoltatori, buonasera, ben ritrovati da Alessio Maurizi, da Jerry Calà a Carlo Gabardini. È tutto finito. Carlo, ciao. Ciao Alessio, buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Hai capito? Siamo passati da intervistare Jerry Calà a parlare con te. Dove sei? A Pescara? E certo che l'ho capito, sono a Pescara, assolutamente, sta bellissima, sto benissimo, ho fatto anche il bagno in mare, lo so, avevo promesso di non dirtelo. Non farci venire troppa invidia, perché quella era in Sardegna, guardava il tramonto, tu sei a Pescara, fatto il bagno, noi siamo qua alla radio, tutti così, non so come definire, l'allegra brigata, un po' abbronzati ma non troppo, ecco. Giusto, Carlo, mi sto spostando, mi stanno portando a Città Sant'Angelo Village, dove c'è un outlet dove faccio la presentazione del libro all'interno del Festival delle Letterature della Cioè tra un paio di pantaloni e una camicia strana. Ma no, ma guarda, non l'ho ancora visto, sto arrivando, ma mi hanno detto che è un posto bellissimo. Ha presentato il libro anche Concito De Gregori insieme a Luca Sofri e insomma pare che sia un posto bellissimo dove è tutto ricostruito, sono come delle casette ricostruite, sono molto curioso. Bene, tra poco ti lasceremo alla tua serata, però adesso stai un po' con noi, sentiamo i titoli del TG3 e poi gli ascoltatori, vai. Molto lì. Dopo il duro scontro sul piano di salvataggio, la spaccatura di Syriza, la Grecia potrebbe andare al voto a settembre, attesa stasera le dimissioni di Tsipras. Il Papa ha scelto il tema della giornata mondiale del migrante che si svolgerà il prossimo gennaio e i rifugiati ci interpellano, la risposta è la misericordia. Ancora polemica tra Lega e PD sull'emergenza migranti, la pressione dei profughi sulla Macedonia che chiude le frontiere, Massimo Cacciari, ospite TG3. Forse anche l'ISIS dietro l'attentato di stamane al Cairo, il mondo della cultura ricorda Khaled Assad, custode del sito di Palmira, giustiziato dal califfato. 7 paracadutisti morti in Slovacchia nello scontro di 2 aerei durante le prove dell'air show, una trentina sono riusciti a lanciarsi prima dell'impatto. Carrozza, Rolls Royce, elicottero, gli incredibili funerali nella capitale del boss della Camorra, Casa Monica, anche un manifesto con la scritta «Sei il re di Roma». La ragazza condannata per l'aggressione con l'acido chiede di essere affidata alla comunità Exodus con il neonato. Don Mazzi pronti ad accoglierla. Allora, eccoci qua. Adesso riprendiamo con gli interventi degli ascoltatori. Marco da Roma, buonasera. Buonasera, senti, io devo avere lo stress. Cosa ci stressa veramente? Sì. A me stressa tantissimo quando accendo la televisione. E faccio alcuni esempi. Oggi sentivo la televisione e c'era un tizio che veniva intervistato e, a parte il nome e cognome, ma la sua qualifica era shift leader. Io che non parlo inglese ho dovuto prendere il vocabolario, anzi non l'ho preso per principio, perché non parlo inglese? Quella è una cosa che mi stressa. Cioè lei l'inglese lo stressa quando qualcuno usa l'inglese così a sproposito? Ma alla televisione, perché visto che pago il canone spero sempre che scrivano in italiano. Dicono che dobbiamo aggiornarci, che dobbiamo parlare tutto inglese, sa, anch'io sono un po'... so, però a 55 anni è una scuola di inglese, a parte non mi serve. Vivo in Italia. Ma che cos'è lo shift leader? Ah ecco, questo è Carlo, cos'è lo shift leader? Che cos'è lo shift leader? Marco? Sì, non lo so cos'è lo shift leader. Ha detto che aveva guardato sul dizionario. No, mi sono rifiutato di guardare sul dizionario. Ma non solo quello. Quando sento parlare i politici, e mi riferisco a Berlusconi, Renzi, i loro amici, che oggi dicono una cosa e il giorno dopo ne dicono un'altra. È una cosa proprio che mi fa stressare, che spengo la televisione e faccio un'altra cosa. Quindi Marco, lei la fanno stressare i politici. Alcuni politici, parlo quelli di Forza Italia e del Partito Democratico. Poi se c'è un politico che parla inglese, per lei è il massimo dello ancora stress. Ancora peggio, perché se parla inglese, se parlasse spagnolo, almeno qualcosa capisco. Per come parlano inglese Renzi e Berlusconi, direi che si capisce tutto molto bene, perché praticamente è un italiano con un accento anglofono. Anche questo è vero. Neanche il dialetto si riesce, è una cosa terribile quando parla inglese Renzi, poi. Mamma mia. Grazie Marco. Buongiorno, buonasera e complimenti. Buona serata, sì. Carlo, l'unica cosa su cui ti devo aggiornare è che ieri sera abbiamo intervistato Don Daniele Fort, parroco di Porcia, e ha detto che gli animali non hanno un'anima, e questa è una cosa che sta facendo un po' infervorare gli ascoltatori. Quindi se qualcuno chiamerà facendo riferimento a questa cosa, sappi che tutto deriva da questa importante intervista rilasciata da Don Daniele a Radio 24. Marco da Bergamo. Io lascio parlare te, ovviamente. No, vabbè, puoi dire la tua. Marco da Bergamo, buonasera. Prego. Pronto? Ciao, volevo intervenire riguardo alla stupidata che ha detto il prete. Eccolo. Come si chiama quel prete lì? Don Daniele da Porcia. Don Daniele, ok, tra l'altro simile al prosciutto San Daniele. Il punto è, la parola animale in se stesso vuol dire colui che ha un'anima. La parola animale vuol dire questo. Lui sostiene che l'uomo è superiore agli animali, o sbaglio? Sì, sì, dice questo, ecco, da cattolico, ma, da, è la posizione della Chiesa, lui dice questo. Ma non credo proprio, perché, perché? Non è così, insomma, perché l'uomo non è dipende così? Al 100% dagli animali, ok? Perché se non ci fossero le api... discende, ma la discesa è stata lunga però, eh? Come, scusi? No, dico, l'uomo discende dagli animali, ma la discesa è stata lunga. Dipende dagli animali, perché se non ci fossero le api non ci saremmo neppure noi. E questo però dipendiamo anche dalle verdure, e quindi certo, discutere sull'anima delle verdure è difficile. Allora, io credo che paragonare la sofferenza che provoca uccidere un animale e la sofferenza che ha una verdura mi sembra un po' una... No, ha ragione, io concordo pienamente con lei, mi scuso, concordo pienamente, dicevo che la giustificazione per cui hanno un'anima, perché noi dipendiamo dagli animali, non era sufficiente in questo senso. Ma sono d'accordo con lei che un animale e una zucchina non sono la stessa cosa. Già la sofferenza è un criterio diverso. Lei dice quando ammazziamo un animale soffre, esatto. E questo potrebbe essere indice di un'anima esistente. Ma infatti Don Daniele, attenzione, non ha detto che bisogna maltrattare gli animali, ha detto semplicemente che in una gerarchia di valori l'uomo viene prima dell'animale. Questo ha detto, non vuol dire che l'animale vada trattato male o che non abbia una sua sensibilità, non ha detto questo. Ok, gli animalisti sostanzialmente credono semplicemente in questo, che gli animali soffrendo, ok, hanno la stessa capacità di sentire e percepire il dolore, ok, e l'unica cosa che hanno di diverso da noi è la non capacità di immedesimarsi in un corpo altrui, ok? Perché noi abbiamo la capacità di essere empatici in modo maggiore dagli animali. Mi piace come parla lei, Marco, fa delle pause lunghissime e poi spara le parole empatici come se fosse una cannonata. No, ma è vero quello che... Non è vero, però allora, lui dice che il palio... Però allora dà ragione a Don Daniele da questo punto. No, lui dice che il palio degli asini è giusto. Sì. Io non credo, perché... Quegli asini sono obbligati a correre, non hanno libertà. Divertono, anche i bambini sono obbligati a correre nel palio, no? Si divertono avere un cretino sopra che lo prenda frustato, immagino. Cioè, lei si deve riuscire a immedesimare nell'asino. Ma io non posso immedesimarmi in un asino, perché sono... Perché no? Sono molto diverso da un asino, non ho le orecchie intanto lunghe. Ma a lei piacerebbe essere... cavalcato e preso a frustate da un cretino per correre. Quando lo fa mia figlia che gioca con me, io me lo faccio fare, sì. Sì, ok, ma vuole mettere tua figlia, ok, con un fantino che sostanzialmente... Ma sono leggeri, i fantini sono leggeri, quasi come i bambini. Però la frusta no, o sbaglio. Avere un ferro in bocca per poter correre e essere direzionati a piacimento dal fantino non mi sembra una cosa. Vabbè, lei invece riesce ad immedesimarsi nel cavallo, proprio riesce. Certo che io sono andato a protestare contro il palio, ma non so perché, perché credo, come diceva Gandhi, ok, che una civiltà evoluta si misura da come tratta gli animali, e questo un cretinetto come Gandhi lo diceva. Va bene, ma guardi, grazie Marco, grazie, buona serata. Ma non è che Don Daniele ha detto che bisogna trattarli male gli animali, ripeto, ha detto che è assolutamente contrario ai maltrattamenti, al palio del musso che fanno a Porzia, gli asini non vengono per niente maltrattati, non muore mai nessuno, stanno benissimo, però li usano lo stesso per fare il palio e non se ne pentono. Questa è la, diciamo, la sintesi. Franco da Verona, buonasera. Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Grazie, cioè grazie, prego. Questa qua siamo tutti un po' stressati, però diciamo che io faccio un lavoro che mi tiene occupato 13 ore al giorno e non mi fa neanche rientrare a casa. Quando ho saputo che mi levavano i miei diritti acquisiti, mi sono cominciato a stressare e sono già un po' di anni che sto sempre sotto stress. Beata quella signorina che vuole smettere di fare la modella, probabilmente lei se lo può permettere. Ma lei pensa che io faccio un lavoro usurante, che 13 cos'è? Ore al giorno, faccio l'autista internazionale. Sì. Perciò io 13 ore al giorno sono impegnato. E cos'è che la stressa di più? Non certo stare in mezzo al traffico, perché lei è abituata. No, sì, ci sono abituato. A me mi stressa il pensiero che non riesco ad andare in pensione quando avevo deciso. Perché si allontana l'anno sempre di più? Ho iniziato la mia vita lavorativa sapendo che con 35 anni di contributi andavo in pensione e sfumato. Allora il mio diritto acquisito, ecco, quello stress dove mi viene fuori. Io potrei ammazzare qualcuno in mezzo alla strada fra un paio d'anni, quando non ce la farò, più. Gli autisti dell'ATAC, guarda caso, fanno 7 ore al giorno e sono stati compresi nei lavori usuranti. Lei quando no? L'autista privato di camion privati non è compreso nei lavori usuranti? Esatto. Questa è un'ingiustizia. Esatto. Però non dica così, resista. Quanti anni ha lei? Forse ce l'ha già detto. Io ho 59 anni. Potevo andare in pensione fra 3 anni, così ci vado quasi a 70 anni in pensione. Ha capito il problema, lo stress? E io divento una bomba umana in mezzo alla strada, e quello è il problema. Che mi... non posso neanche andare dal dottore a dire no, non ce la faccio più a guidare, revisionami la patente, perché io poi devo comunque campare. Ha capito lo stress dove viene? Ho capito. Grazie. Buona serata. Buona serata a voi. Carlo, hai sentito? Questi sono problemi. Carlo? Sì. Eccolo, ma tu dove sei? Ma sei distratto? Cosa fai? Non sono distratto per niente, ero molto incuriosito a questa questione. Mi sembra assurdo che se guida il camion non sia un lavoro usurante, perché più usurante di guidare un camion, e parla uno che non ha neanche la patente, c'è poco. mi sembra una giustissima richiesta che sia un lavoro usurante, non puoi andare in pensione a 70 anni guidando un camion. Assolutamente. E anche molto bella la motivazione che dice diventi una bomba umana, che è anche una sottile minaccia. Sì, no, infatti pensavo chissà che lo dicesse perché come una forma di rivendicazione, invece voleva semplicemente dire che rischia di diventare pericoloso una persona che ha una certa età, esatto, e che è stanca di fare un lavoro usurante, che però deve ancora continuare a farlo perché in pensione non può andare. Adesso andiamo, possiamo andare dove vogliamo andare. Arezzo, vai. Inopportuna la paura per una cultura diversa. Chi su di me riversa la sua follia perversa, arriva al punto che quando mi vede scherza. Vuole mettermi sotto sto signor rotto, che si fa vanto del santo attaccato sul cruscotto. Non ha capito che sono disposto a stare sotto solamente quando fotto. Torna al tuo paese, sei diverso. Impossibile, vengo dall'universo. La rotto perso, che vuoi che ti dica? Tu sei nato qui perché qui ha partorito una figa. In che saresti il migliore? Fammi il favore, compare. Qui non c'è affare che tu possa meritare. Sei confinato ma nel tuo stato mentale. Io sono lunatico e pratico, dove cazzo mi pare? Io non sono nero, io non sono bianco. Io non sono attivo, io non sono stanco. Io non provengo da nazione alcuna. Io sì, io vengo dalla luna. Io non sono strano, io non sono pazzo. Io non sono vero, io non sono falso. Io non ti porto iella né fortuna. Io sì, ti porto sulla luna. Caparezza per introdurre questa notizia. Allora, prima gli italiani è diventato uno slogan di molti politici nazionali quando si parla di immigrazione. Buonasera al sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli. Perché lei lo sta facendo. Lei amministra una città, non una cittadina nel profondo nord, una città anzi tradizionalmente di sinistra, anche se lei è un sindaco di centrodestra. E ha deciso di fare che cosa? Prima gli italiani in che senso? Beh, non è declinato correttamente, non è prima gli italiani. Diciamo così ha scritto il giornale, da cui sì, abbiamo ripreso la notizia. È una semplificazione. Il sindaco di Arezzo si smarca, aiuto, prima gli italiani, il giornale di oggi. Allora, le spiego, noi nell'ambito di quella che è l'erogazione dei sussidi, chiamiamoli liberi, sì, cioè quelli che vengono erogati liberamente a semplice richiesta per... pagare la bolletta perché il cittadino non ha più possibilità, condizioni economiche avverse, sì, diciamo i funzionari a loro sensibilità e a loro discrezione erogano dei denari che i servizi per noi sociali, sono i servizi sociali, fanno questo, sì, che per noi su questo capitolo, che è un capitolo diciamo ripeto di sussidi liberi, sì, rappresenta una cifra non secondaria, sono circa 170.000 euro che tutti gli anni destiniamo a questa funzione. anziché ricorrere a un'erogazione libera, quindi indiscriminata, dal momento che questi soldi non bastano e di più non riusciamo ad erogarne per queste funzioni, abbiamo deciso non certo di fare una graduatoria, ma di dare un criterio per cui a parità di condizioni di bisogno privilegiamo non tanto gli italiani, ma coloro che hanno una residenza ad Arezzo da almeno 5 anni. Però italiani e stranieri è la residenza che fa la differenza. Assolutamente, è la residenza che fa la differenza. Quindi si potrebbe dire prima gli aretini. Prima gli aretini, bravo, perfetto, prima gli aretini. Beh, insomma, questo è già diverso. Ma quindi questo mi dice... è completamente diverso, anzi mi sembra condivisibile da un certo punto di vista, nel senso che chiedono dei soldi al comune di Arezzo, mi sembra giusto esattamente. Che prima siano noi non li neghiamo, tutti gli anni questo plafond viene sicuramente erogato tutto, però qualcuno rimane fuori, allora non vorremmo che a parità di altre condizioni, ripeto, rimanessero fuori degli aretini puro sangue. Quindi facciamo un esempio, Io sono un disoccupato, ho perso il lavoro, non riesco a pagare le bollette, vengo in comune, chiedo una mano, chiedo un aiuto, sono cittadino senegalese e sono in Italia da 10 anni, da 8 anni risiedo ad Arezzo. Basta, ho diritto tranquillamente al sussidio. Certo che sì, e tra l'altro il sussidio verrà erogato, cioè lo stiamo organizzando questo servizio, non più con una corresponsione diretta di denaro breve umano, ma con una card nella quale noi metteremo la ricarica, quindi i soldi saranno comunque a disposizione, ma noi sapremo a chi li abbiamo dati. Vabbè, questo mi sembra giusto. Però volevo capire chi avete in mente di escludere, visto che lei, la premessa è abbiamo fondi limitati, una richiesta che comunque è crescente, dobbiamo dare una priorità. E chi escludete? Allora, vogliamo evitare che in fondo che prenda di più o chi più si lamenta o chi primo arriva. Vogliamo dare un minimo di controllo nell'erogazione di questi denari, perché vadano a chi ha veramente più bisogno e che quindi ci dimostri che ha una situazione di indigenza latente o consolidata, e quindi a questi personaggi noi ovviamente diamo un aiuto nei limiti in cui possiamo. Perché per esempio, faccio un esempio, chi potrebbe essere escluso? Potrebbe essere escluso l'immigrato arrivato da poco in Italia, che non risiede da un tempo sufficiente, che si trova in condizioni di difficoltà, viene in comune e non becca nulla, chiaramente. Sì. Allora, anche su questo occorre fare un piccolo distinguo, perché nell'ambito di questa erogazione noi ancora non l'abbiamo formulata compiutamente, ma si stava pensando di lasciare di questi 170.000 euro una parte come riserva in assoluto. Supponiamo 70.000 euro, io me li tengo e li do a chi veramente la mattina dopo muore, se io non gli do un tetto dove dormire, perché non ha, e questo indipendentemente dagli anni che uno è vissuto in Italia. Ma la parte emergenziale me la voglio tenere. L'emergenza me la voglio tenere, ma una parte corrente, diciamo 100.000 euro, ma butto là dei numeri per adesso in maniera molto sommaria, li voglio regolarizzare in modo che il bisogno stratificato abbia una risposta in termini corretti, in termini misurabili. Quindi potrebbe darsi invece che per le situazioni di emergenza anche un immigrato Ha diritto all'aiuto. Per quanto si può, io cerco di arrivare al 31 dicembre senza aver finito tutto, in modo tale che anche l'emergenza del freddo dell'ultimo dell'anno mi consenta di aiutare chi in quel momento è in difficoltà. E in vera difficoltà in sé. Mi sembra un'ottima notizia, è questo che dico, mi sembra quasi più un problema di ufficio stampa, nel senso che il titolone dire prima degli italiani è un titolone che magari può preoccupare. Ma in questo modo, seguendo l'esempio che ha fatto Alessio, quindi se c'è un senegalese che da 8 anni è residente ad Arezzo, e c'è uno di Lucca che invece è residente ad Arezzo da 2 anni, i soldi li piglia il senegalese. E quindi mi diciamo sembra... diciamo di sì, è un legame con il territorio che intendiamo in qualche modo privilegiare. Quindi possiamo dire che in presenza di una quantità di denaro finita, perché se non avessi limiti non certo, potrei potrebbe dare tutto a chiunque, ma questo purtroppo a chiunque ne ha veramente bisogno. Se posso dire una cosa, ho letto delle sue dichiarazioni, devo dire che apprezzo molto il fatto che lei dice siamo in un momento difficile e quindi la politica significa fare delle scelte, io faccio delle scelte. Esattamente. Io mi piglio questa responsabilità, che potrà sembrare anche antipatica, ma me la prendo. perché sono stato votato dagli aretini e da tutti, anche dai senegalesi che stanno qui da 8 anni, e intendo dare delle risposte a chi ha più bisogno e che ha un legame con questo territorio. Allora, però possiamo dire una cosa alla fine, in conclusione. Venga Milano, sindaco, sì. Se va via Pisapia. Possiamo dire che il titolo del giornale è sbagliato, tecnicamente proprio è sbagliato. È esagerato, probabilmente. Ha no, è sbagliato, non esagerato, perché prima gli italiani non è così, prima gli aretini, cioè prima chi risiede ad Arezzo, gli italiani o stranieri. Esattamente. Però questa cosa evidentemente serve a che cosa? Ad un dibattito politico nazionale nel quale prima gli italiani è diventato uno slogan di alcuni politici di centrodestra. Beh, addirittura c'è anche chi dice solo gli italiani, come lei ben sa. Sì. No, io sì, sono lontano da questo tipo. Però lei è lontano da questa posizione, Fratelli d'Italia, un po' la Lega, eccetera. Beh, insomma, ora lontano, mi hanno votato, quindi devo avere rispetto per tutti, però io ho dato un criterio che mi sembra un criterio ragionevole, che non privilegia in assoluto l'italiano, ma privilegia chi ha un legame con il territorio. Non ci scordiamo che io non sono un politico, sono un sindaco civico e come tale mi comporto, cioè ho il massimo rispetto ovviamente per chi mi ha votato, ma soprattutto per i miei concittadini, sono loro che mi hanno voluto sindaco e quindi io devo privilegiare la rettilità sopra ogni altra cosa. Va bene, grazie, buona serata sindaco. A lei, buona serata. Buon lavoro. Posso chiamare la compagno Ghinelli? No, questo proprio no, questo proprio no, stavo... No, però se posso aggiungere solamente una cosa, direi che abbiamo spiegato molto bene come mai ad Arezzo ha vinto un sindaco che magari non ci si aspettava, perché uno si aspettava un sindaco di sinistra e invece ha visto una bravissima persona. È il mio personale commento, però Vabbè, grazie dai. Mille, arrivederci. Arrivederci, buona serata, arrivederci. Compagno, su compagno Ghinelli ha avuto un attimo, gli si è bloccata la mascella, però... E c'ha ragione, era ovviamente provocatore, non volevo... No, però mi sembra che veramente la notizia è chi è il sindaco di Arezzo, mi sembra molto interessante, cioè è uno che deve fare delle scelte e non mi sembra che faccia delle scelte, diciamo, per ideologia... No, tra l'altro poi a domanda diretta, l'immigrato che transita sul comune di Arezzo e che non ha che non risiede lì da tempo e non ha niente in tasca, non ha diritto al sussidio, lui ha detto mi devo tenere una parte di questi soldi per dare sussidio anche alle emergenze, quindi anche in questo caso non è vero il discorso che c'è scritto sul giornale prima gli italiani, però insomma è una scelta, vediamo se agli ascoltatori piace o no. 800 24 0024 Carlo, resti un paio di minuti ancora con noi? Volentieri. Facciamo gli ascoltatori. Vai Paola da Parma, buonasera. Paola da Parma, ci sente? Pronto? Eccola qua, prego. Buonasera. Sì. A proposito dell'anima degli animali. Sì. Volevo dire che durante un'udienza di Paolo VI, all'epoca di Paolo VI, c'era una bambina che piangeva. Allora il Papa si è avvicinato a lei e ha chiesto perché piangesse. E la bambina ha detto perché è morto il mio cagnolino, il mio gattino, non mi ricordo più. E Paolo VI gli ha detto ma non piangere che lo ritroverai in paradiso. I giornali il giorno dopo, uno scandalo, il Papa ha detto che i gatti hanno l'anima, i cani hanno l'anima. Vedi. Però non è brutta questa frase, anzi non è bello, è l'amore. No, è bella, bambino... è bella la frase, però evidentemente in una parte almeno della dottrina della Chiesa il fatto che il gatto si ritrovi in paradiso può stridere. Ma stridere. Certo, soprattutto per chi resta fuori. Ecco, forse. Chi resta fuori dal paradiso dice porca miseria, è entrato Pucci. Comunque me la sono ricordata sempre perché è una frase, adesso noi abbiamo un cane. Mm. E ogni tanto gli dico, beh dai, sta buono, che dopo ci rivedremo là, Ho capito, va bene. Buonasera. Grazie Paola, buonasera. Buonasera. Buonasera, grazie mille. No, bello però questo aneddoto del Papa che dice al gattino ci ritroveremo in paradiso, cioè alla bambina. Molto insomma. Bello. In più, se possiamo aggiungere, forse non è una questione di dottrina, ma è anche una questione di consolare una bambina adesso. Sì, sì, assolutamente, no. Assolutamente sì, in quel caso lì sì, sì, sì, sì. Anche una menzogna finti bene ci può stare. Ci può stare, però menzogna resta perché il gatto non entra. Non lo so. No, infatti. Nemmeno io, io sto a quello che dice Don Daniele. Giovanni da Pordenone, buonasera. Ho dei dubbi anche sugli uomini. Pronto, buonasera. Una breve riflessione sulle nomine dei curatori museali del nostro paese. Io credo che non ci sia nulla da scandalizzarsi se nel nostro paese vengono nominate delle persone che provengono dagli altri paesi. La cultura non ha confini e noi sappiamo perfettamente che molti direttori e direttori generali di musei e delle istituzioni culturali nel mondo sono italiani. Quindi ben venga un approccio all'esterno se questo serve a portare novità e a dare slancio alla nostra industria della cultura. Diverso discorso invece relativamente ai curricula, cioè io ho ascoltato ieri sera l'intervista del dottor Schmidt e naturalmente non entro nel merito del suo curricula, tuttavia mi pare che una persona che viene dalla direzione del museo di Minneapolis, cioè una piccola città o media città americana, abbia un'esperienza tutto sommato molto limitata. Devo fare la pausa, mi scusi, resti in linea con noi, facciamo una pausa brevissima e poi torniamo, tra un attimo. Si può fare l'attualità anche d'estate. Eccoci qua, Giovanni, prego, continui pure il suo discorso. Sì, stavo dicendo, e quanto poi l'aspetto della managerialità, ho ascoltato l'intervista del dottor Schmidt, non mi è parso dalle sue parole, è chiaro che una rondine non fa primavera, ma non mi è parso un approccio così manageriale, così eclatante, l'eliminazione delle file o il potenziamento delle attività di merchandising sicuramente è una cosa interessante, ma non mi sembra che dovessimo ricorrere proprio all'estero per risolvere questo tipo di problemi. E allora... Ma no, guardi, non è che secondo me la premessa che è sbagliata, dovevamo ricorrere all'estero, non è che dovevamo ricorrere, non è questo, infatti ci sono anche degli italiani e degli italiani che tornano all'estero. Dovevamo ricorrere a a cercare delle professionalità in una maniera diversa di quello che abbiamo fatto fino adesso, cioè con nomine di semplicemente storici dell'arte che possono essere bravissimi nella tutela e un po' meno nella valorizzazione. Questo apre secondo me un aspetto anche qui molto velocemente sulla necessità di formare i nostri giovani non soltanto sull'arte ma anche sugli aspetti della managerialità e della cultura dell'economia. Ecco. Quindi arte e economia devono essere due aspetti, arte e mercati, che devono viaggiare assieme. Quindi mi auguro che ci sia un potenziamento sul fronte universitario. Il secondo tema, molto velocemente, è il tema di quella signora di Milano che è stata condannata e cui hanno sottratto il figlio alcuni anni dopo il parto. Senza avanzare nel merito degli aspetti meramente giuridici, io credo che questo sia un atto di barbaria giuridica in senso stretto, perché non mi risulta che, secondo me che metto il codice penale recentemente, che una persona che viene condannata per un reato sia prevista tra le pene accessorie anche quello dell'allontanamento del figlio, almeno per questi tipi di reati. Quindi non ho capito, non le risulta? Non le risulta la Non mi risulta. Come no? Si è prevista come pena accessoria? No, come pena accessoria, come non so se tecnicamente sia una pena accessoria, ma in certi tipi di reati molto gravi è previsto, come no è previsto il fatto dell'allontanamento. A me non risulta per questo tipo di reato, ma naturalmente posso ovviamente sbagliare, mi sembra ad ogni buon conto. È un reato di tentato omicidio, aggravare non so esattamente, 14 anni ha preso la signora, è un reato di gravissima violenza con rischio di reiterazione secondo i giudici. I giudici hanno scritto nella condanna che lei non si è pentita per niente, mantiene una come si dice, una pericolosità sociale elevatissima, ed è questo il motivo per cui le hanno tolto il figlio, non dimentichiamoci. Io per dire, le sentenze si rispettano e vanno soltanto impugnate, esprimevo soltanto un mio modesto punto di vista. Va bene. Giovanni, buona serata. Grazie. Buonasera. Carlo, facci capire, tu adesso stai camminando verso... verso questo bellissimo posto che si chiama Village a Pescara, dove presenterò il mio libro Forse in te insisterei. Il relatore all'interno del Festival delle Letterature dell'Adriatico, che bello. I cui direttori sono Vincenzo D'Aquino e Luca Sofri. Benissimo. Luca Sofri non è qui, ma c'è Vincenzo D'Aquino che sarà il relatore. Ma quanto siete distanti dal Village? Quanto siete distanti? Siamo distanti, sono nel parcheggio, se proprio vuoi sapere. Ah, stai arrivando. Ma siete in vista mare? Sì. No, niente. No, però... Ormai il mare ve lo siete lasciato alle spalle, va bene. Il mare ce lo siamo lasciati alle spalle, siamo un pochino più verso l'entroterra. Tra poco ti strapperanno, ma insomma noi tra poco ti mandiamo in pausa, finiamo, arriviamo fino al traffico. Allora, facciamo Letizia che chiama dalla provincia di Rimini. Io sto aspettando anche i titoli del TG, fra poco arriveranno, intanto Letizia. Letizia, buonasera. Buonasera, volevo dire che io ammiro molto l'opera pastorale di Don Mazzi e anche come veramente una persona egregia, ma credo che in questo caso anche il suo desiderio, insomma, di volere redimere l'allevato con la maternità, questo contrasti con l'interesse del bambino. C'è un po' questa idea che la maternità possa farla redimere, tornare, diciamo, chissà a quale, non so, condizione di purezza, no? Questo può essere una speranza, eh? Io capisco che ci possa essere questa speranza, però lei dice giustamente, io sono d'accordo, non sulle spese del figlio. Questo sì, perché il bimbo, se viene adottato da una famiglia normale, vivrà senza conoscere le sue origini, quindi senza dover ascoltare questa colpa originale. Invece io capisco, insomma, il buonismo un po' nostro, un po' italiano, che porta a vedere la mamma, insomma, a santificare la mamma, però in questo caso le ragioni del bimbo devono essere prevalenti. Sarebbe interessante capire se, partendo da una base in cui io avevo visto i sondaggi il giorno stesso della decisione, la maggior parte degli italiani sembravano d'accordo sul fatto che gli venisse tolto il figlio, se una posizione come quella di Don Mazzi faccia breccia, cioè dire il bambino può redimere anche lei, e quindi, diciamo, fare breccia nel buonismo che in effetti in Italia a volte c'è, eh? Quindi sarebbe interessante capire se cambierà un po' l'opinione delle persone. Tra l'altro Don Mazzi è un prete ultranoto, ormai da anni sta più in televisione forse che nelle sue comunità. Va bene, grazie Letizia, buona serata, buona serata. Ugo dalla provincia di Brescia. Sì, buonasera Maurizio. Prego. Buonasera, buonasera a lei, buonasera a chi ascolta. Arrivo 24 ore dopo riguardo l'argomento, di questo mi scuso perché voglio trattare l'argomento che riguarda il sindaco di quel paese dove si fa il festival della migrazione, eccetera. Ringrazio la radio perché mi aveva ricontattato ieri, poi ci sono stati dei problemi. Comunque arrivo al dunque. Non voglio parlare del festival, perché le manifestazioni che si fanno all'interno di ogni comune, beh, ognuno è libero di organizzare quello che vuole. Dove volevo porre attenzione io è il ragionamento che ha fatto il sindaco quando ha detto: noi siamo un paese che ha dei problemi di occupazione, eccetera, per cui per noi l'immigrazione è una risorsa. Può essere una risorsa, sì. Perché gestendo i fondi del Ministero dell'Interno e della Comunità Europea riusciamo a dare lavoro, affittare case, a dare lavoro anche ai giovani, anche ai laureati, tramite gli assistenti sociali e queste cose che assistono quindi però non ci faccia il riepilogo di quello che ha detto a Conformoso. Infatti voglio dire, concludo subito, nel senso che non si crea lavoro in questo modo si usano soldi pubblici, non mi sembra il modo è verissimo, è un sistema che può funzionare, un sistema che non crea assolutamente lavoro. Quello dell'accoglienza diffusa è un sistema che può funzionare per mettere mano al discorso dell'accoglienza, basta. Non è un sistema che può generare, come dice lei, lavoro, perché sono soldi pubblici che alimentano l'accoglienza diffusa. Però bisogna anche dire che quei soldi pubblici altrimenti andrebbero in un'altra forma di accoglienza, che è quella dei CARA, dei CIE, che ha creato una serie di problemi. Quindi va confrontato i due modelli, ha capito? Vanno confrontati. Ha confrontato i due modelli ritenendo logicamente che il suo era migliore, perché là ci sono tanti problemi al suo paese. No. Altra cosa è creare lavoro, su quello sicuramente ha ragione. Non c'è creare lavoro, questo mi sembra in modo per creare lavoro. Detto ciò, il problema della migrazione esiste, ma però non si risolve neanche in questo modo, allargando le porte a tutti, facendo entrare a tutti. Chiudo ringraziando la radio e chi mi ha ascoltato. La saluto. Grazie, grazie Ugo. Grazie mille. Adesso qua mi reclamano. Ti reclamano. Allora, caro Carlo, buona serata. Salutami tutti quelli che ci sono. Grazie mille. E ci sentiamo domani. Assolutamente. Ciao, fai il bravo. Ciao a tutti gli ascoltatori. Ciao. Titoli, la 7. Dopo lo scontro nel suo partito per il piano di salvataggio e l'ok dell'Unione Europea, Tsipras rassegna le dimissioni per andare direttamente a elezioni e avere eventualmente un mandato più forte, saltando la verifica interna a Siriza. Poco fa l'annuncio al suo paese: l'accordo che ho firmato era il migliore possibile, la Grecia alle urne a settembre. Continua a preoccupare il futuro dell'economia cinese. Le svalutazioni dello yuan e le manovre del governo di Pechino non bastano per recuperare la fiducia dei mercati. Forti perdite anche per le borse asiatiche, complice anche il calo del petrolio. In Europa, Milano maglia nera perde il 2,6%. Il Papa torna a chiedere misericordia per i migranti, è necessario accogliere, ma in Europa crescono le barriere. La Macedonia chiude il confine con la Grecia al centro di un vero e proprio esodo da Turchia e Siria. Inghilterra e Francia trovano l'accordo su Calais, aumenteranno sgomberi e sicurezza e gli sbarchi nel nostro paese continuano. Il governo trova una via d'uscita nella questione dei precari della scuola che hanno presentato la domanda di assunzione e che rischiano di vedersi trasferire in province lontane da quella di residenza. Sarà possibile accettare una supplenza vicino a casa senza perdere il ruolo per l'anno 2015-16. Nella chiesa di Don Bosco a Roma va in scena il funerale di Vittorio Casamonica, appartenente al potente clan nomade che porta il suo nome. Sullo sfondo le note del padrino, carrozze, cavalli e un elicottero in cielo che lancia petali di rose. Scoppia un caso politico. Attentato terroristico al Cairo, un'autobomba esplode davanti al Palazzo della Sicurezza Nazionale, solo l'orario notturno ha evitato la strage, ferite 29 persone. Rivendicano prima un gruppo di black bloc egiziani, poi anche l'ISIS che ha ormai una forte presenza nel Sinai. Si può fare. L'attualità anche d'estate. Intanto leggo la notizia, sapete che il premier Alexis Tsipras, premier greco, si è dimesso, era nell'aria, ha dato le dimissioni, ci saranno nuove elezioni a settembre, però diciamo un fatto che così diciamo ha dato una luce anche di ridicola alla situazione, il discorso che lui ha tenuto alla nazione per annunciare queste dimissioni, i primi 30 secondi del discorso non si è sentito l'audio, quindi Tsipras ha cominciato a parlare ma la gente non capiva quello che stava dicendo, un momento insomma di imbarazzo. Andiamo con Claudio che chiama da Arezzo. Buonasera, ciao a tutti. Ciao. E niente, volevo intervenire sul fatto del prete, insomma, che ha detto che gli animali non hanno un'anima e secondo me non ha sbagliato, diciamo, penso e credo a alcune cose, non esattamente, non hanno un'anima, ma secondo me... Parlando però in dottrina, della dottrina della Chiesa, sì, ti stai riferendo, tu la conosci, sei un... No, ho sentito la radio e siccome sì, con i miei amici ne avevo già parlato, e cosa ne pensi? Sembro crudele, però secondo me la vera differenza tra uomo e animale è che l'uomo ha la coscienza. E io insomma con io penso dunque sono lo ha sintetizzato. Questo non vuol dire che gli animali non provino dolore, anche se è un dolore puramente fisiologico, cioè la differenza tra l'uomo e l'animale risiede nella coscienza dal tuo punto di vista, e secondo te Don Daniele si è confuso, voleva dire quello. Confuso non lo so, se magari no, lui secondo intende... me no, è simile a quello che stai dicendo tu, la coscienza, però gli stavamo parlando tecnicamente del fatto dell'anima, perché sai che la Chiesa ha delle sue dei testi, le sue dottrine, le sue categorizzazioni, e su questo il discorso era proprio relativo all'anima degli animali. Va bene, l'anima è pura, è una cosa solo dell'uomo, secondo me la coscienza. Quindi sei d'accordo con Don Daniele? No, loro hanno l'anima però non hanno la coscienza, e questo è una linea molto sottile che va sottolineata. Cioè, va bene, Claudio, grazie, buona serata. A un altro Claudio da Piacenza. Sì, prego. Maurizio, buonasera. Niente, io volevo dire qualcosa su Sgarbi. Sì. Praticamente lui è il perfetto arrogante della politica italiana. Il perfetto, scusa? Il perfetto arrogante. Arrogante, sì. Sì, arrogante. Sa perché? Perché quando lui insegnava a scuola, no, giusto, no? Sì. Insegnava a scuola prima di essere nominato qui sovrintendente dei beni, lui percepiva lo stipendio da professore, giusto? Poi quando passò all'altro incarico, che era questo che adesso, gli tolsero lo stipendio. Ecco, lui fece dichiarazioni del tipo che non era giusto che gli togliessero lo stipendio, quindi voleva due stipendi, quello da professore e quello che fa attualmente adesso. Quindi lui è il perfetto arrogante della politica italiana. È come quello che dice di percepire quegli assegni lì che prendono lì di 5-6 mila euro al mese, che dicono che gli vanno dati. Questa è la politica italiana. Ecco, solo questo volevo dire. Beh, arrogante per Sgarbi è una parola che ci può stare, non è che sia proprio uno che ci va. A noi ci ha dato degli stronzetti del resto l'altra sera. Traffico. Si può fare. L'attualità anche d'estate. Voglio vivere così, col sole in fronte, e felice canto, beatamente. Voglio vivere e goder l'aria del monte, perché questo incanto non costa niente. Le storie di quelli che a un certo punto della loro vita dicono: voglio vivere così, mollo tutto e me ne vado, cambio tutto e prendo un'altra strada. Storie che sono aria fresca, acqua fresca per tutte le persone che si sentono un po' stressate magari nella loro vita quotidiana. La storia di stasera è questa: da account manager di un'azienda digitale a venditrice di cibo di strada con un furgoncino, lei e il suo fidanzato. È la storia di Federica Premoso. Ciao. Ciao. Buonasera. Fondatrice di The Farmers, si chiama così la vostra attività? Esatto, perfetto, The Farmers. Le frittate sono la vostra specialità, è vero? Sì, le frittate sono, diciamo, il nostro piatto di punta, perché abbiamo voluto riproporre un piatto che fosse abbastanza comune a tutti e due, quindi sia a me che al mio compagno, che poi anche il mio socio, e che era un po' un ricordo di infanzia, no? Il panino con la frittata. Come no, come no. Quando è scattato tutto, la molla che ti ha fatto, diciamo, cambiare strada? È scattata quando non ce la facevamo davvero proprio più a continuare, insomma, i nostri lavori e la vita che facevamo prima. Come tu di cosa ti occupavi? Detto, cosa facevi? Io ero un account manager nel mondo digitale. Mm-hmm. E account manager chi è? Quello che cura un po' i rapporti con i clienti? Esatto, esatto. Quindi ero un po', diciamo, il tramite, il ponte tra il reparto creativo e il cliente finale. Nello specifico poi io mi occupavo di clienti non profit. E ti ha dato qualche soddisfazione questo lavoro in qualche momento della tua vita, oppure fin dall'inizio? Cioè è iniziato bene, poi però a un certo punto qualcosa non andava più. Sì, per l'amor di Dio, sì. Cioè, mi ha dato un sacco di soddisfazioni. Quanti anni hai lavorato in quel modo? Un pochino, sette anni. Tu sei di Udine? Sì. Esatto. E lavoravi sempre a Udine o ti eri trasferita? No, mi ero trasferita proprio per lavoro in Lombardia. A Milano. Dopo, quando mi stavo per laureare. Sì, a Milano? A Milano. Sì. Prima a Bergamo e poi mi sono trasferita a Milano. Ok, a proposito di trasferimenti, insomma, ci sta un trasferimento. Però poi a un certo punto c'è stata una mattina, un'illuminazione, oppure è stato un progresso, un progressivo, diciamo, voglia di cambiare? È stato più che altro progressivo. Diciamo che gli ultimi tre anni per me in particolare sono stati piuttosto difficili sotto vari punti di vista, finché ad un certo punto, al di là di quella voglia un po' di cambiare, perché non ero più soddisfatta, mi piacevano certe cose, anche fisicamente ne ho proprio risentito. Non ne potevi più. No, cioè proprio il mio fisico mi aveva detto: ma sai, cos'era la cosa? Ecco, ma la cosa che ti stressava di più, che cos'era? Cioè, non so, trovarti in una città in mezzo al traffico, oppure dover lavorare in un certo modo, dovessi magari vestire in un certo modo per avere rapporti con quella cosa che ti dava più fastidio, qual era? La cosa che mi dava più fastidio era non c'era più quel rapporto vero, sincero con le persone. C'era nel mondo poi della comunicazione e pubblicità inizia ad esserci davvero una totale assenza di etica, e a me questa cosa non andava proprio più bene, non ce la facevo più. Ma guadagnavi? Guadagnavi abbastanza? Sì, devo dire la verità. Quindi non è stata una questione economica? Negli ultimi anni io sono una di quelle fortunate che, insomma, aveva anche uno stipendio decente, buono. Diciamo, sì. Mm-hmm. Sì, sì. E quindi quando è scattata questa cosa hai deciso di fare che cosa? Quello che fai adesso, raccontaci. Sì. Allora, un giorno io e il mio compagno eravamo così in relax in giardino tra un bicchiere di vino e l'altro, e gli faccio: ma senti, ma sai che c'è? Ma visto che abbiamo questa passione comune per il buon cibo, per il bere, eccetera, ma perché non apriamo un locale tutto nostro, un locale che ripropone piatti della tradizione, così? Perché all'inizio l'idea era partita con quella di un locale fisso. Sì. E poi invece per una serie di motivi, soprattutto economici, diciamo sia la verità. Che l'investimento era troppo alto. L'investimento era pesante, ti dirò la verità. Poi abbiamo scoperto che anche l'investimento per lo street food non era poi così basso, però comunque. Perché voi adesso avete un furgoncino piccolo. Noi abbiamo un'ape. Un'ape. Sì, un'ape che si trasforma in una cucina mobile. E girate dove c'è gente, insomma, dove andate a vendere il vostro cibo? Allora, giriamo, da quando abbiamo iniziato abbiamo fatto parecchie feste, festival proprio di street food, feste private, abbiamo organizzato un piccolo addio al nubilato. E poi invece adesso da settembre, a fine agosto-settembre, che ricominciano ad aprire gli uffici, così inizieremo a fare proprio i giri delle pause pranzo, delle colazioni, degli aperitivi in giro per Milano. E insomma, quindi siete tornati a Milano alla fine? No, noi non ci siamo più mossi in realtà poi da Milano. Perché ormai vivevamo qua. Tutto questo è rimasto, sempre l'hai fatto a Milano. E sta funzionando questa cosa? Da quanto tempo avete questo The Farmers? Da aprile. Sta dando grosse soddisfazioni. E pensi che ci possa... divertiamo. Ma pensi che possa essere anche il tuo futuro in qualche modo, o è solo una fase di passaggio? No, io spero che sia il mio presente e il mio futuro. Sei più felice perché... adesso di allora? Sì, sono felice perché facciamo qualcosa che ci piace. Tutte le nostre competenze precedenti che abbiamo accumulato negli anni le usiamo per noi. Perché comunque arrivando dal mondo della comunicazione, la pubblicità, il sito piuttosto che le pagine, la pagina Facebook eccetera, le facciamo per noi. E abbiamo restaurato dei rapporti veri anche con le persone, con alcuni colleghi che abbiamo conosciuto che hanno dei passati simili ai nostri, ma anche con quelli che noi chiamiamo collaboratori più che fornitori, no? Delle cascine, delle piccole aziende agricole della zona. E quindi è molto bello. Poi ci dà la possibilità di girare ovunque. Sì. Venite anche a trovarci anche qua in via Monterosa. A voglia, certo. Ci sono un sacco di uffici, ci siamo noi della radio. Abbiamo una grandissima mensa aziendale, una ottima e grandissima mensa aziendale, però... ma ogni tanto per cambiare... Esatto, non si può uscire, si mangia un panino, un po' di street food. Grazie mille, Federica. Grazie a te. Ciao. Grazie, ciao. Buona serata. The Farmers, insomma, vedete come una piccola attività, piccolissima come questa, possa però costituire anche... un lavoro, un vero lavoro per due persone, Federica e il suo fidanzato. Abbiamo ancora qualche minuto per chiudere questa serata. E dove andiamo? Con gli ascoltatori, naturalmente. Iniziamo da Stefano, che chiama dalla provincia di Bergamo. Stefano, buonasera. Sì, ciao, ciao. Buonasera. Io volevo... ho telefonato per ribattere un po' alla telefonata di quel autotrasportatore che si dichiarava una bomba vivente perché gli hanno posticipato una serie di norme l'età della pensione. Sì. Volevo ribattere nel senso che questo tema qui di 35 anni diventa insostenibile nel momento in cui uno va a vedere i dati, e io mi ricordo di aver letto tempo fa, non so su quale rivista, un dato sull'attesa della vita media, e diceva che in 20 anni, dal 92 al 2014 se non ricordo male, la vita media degli italiani e delle donne è aumentata di 9 anni e quella degli uomini di 6. E per cui c'è questo tema qui di dire: io quando ho iniziato a lavorare avevo in mente di andare in pensione a 35 anni, viene stravolto anche. Sì, tutto vero. Però lei si metta nei panni di uno che ha cominciato a lavorare, che ne so, a 15 anni e che adesso ne ha 60. E che quindi lavora capito, da qua. Sì, ho capito, certo, ho capito, ma ha capito. È cambiato tutto. Cioè, non è che possiamo pensare che uno che lavora da 40 anni sul camion possa farlo per altri 10 anni. Perché è forse un po' troppo. Poi il discorso che fa lei è verissimo, è un discorso generale. Però ci sono i cosiddetti lavori usuranti, dovrebbero esserci, perché nel caso del camionista invece ci raccontava proprio come nel suo caso appunto non è compreso. E lì bisogna capirlo, no? Io sì, credo, sì, almeno. Capisco, però forse l'attegnamento migliore appunto. Sì, cioè, non ho capito cosa da rimproverare al camionista. Non ho capito. Ogni volta che me la spostano mi viene da ammazzarmi, ho capito, ma è l'atteggiamento sbagliato. Se io so che camperò 20 anni di più, devo anche dire. Ma lui, intendiamoci, la media degli italiani sta aumentando, si campa sempre di più. Però io non lo so se il signor camionista di 60 anni che ha chiamato stasera, che è 40 anni che sta sul camion, se vivrà altri 20 anni, glielo auguro, anche 30. No, certo, no, stiamo parlando di media, è chiaro che poi la storia di ciascuno di noi non la conosciamo e tutti speriamo di campare a lungo e di campare bene, perché poi il tema della qualità è un altro e anche quello è un altro tema. Però voglio dire, cioè, se io guardo la foto di mia nonna a 50 anni, io ne ho 50, era una signora anziana. Adesso vedi i miei coetanei, questo sì, questo è vero, ancora di essere piacevoli. Cioè lei dice, facendo questo ragionamento bisogna tirarsi un po' sul morale e dire vabbè, in fondo siamo i sessantenni e sono i nuovi cinquantenni, quindi andiamo avanti tranquillamente. Beh, può essere un punto di vista. Grazie Stefano, buona serata. Grazie. Buona serata. Vincenzo dalla provincia di Taranto. Pronto? Pronto. Sì, buonasera. Buonasera. Prego. Io volevo solamente dare il mio contributo in questo senso. Io sono anni che ascolto il 24, qualche volta spengo perché sono un attimo disgustato. E stavolta è caduta la linea. Quindi ce la dirà un'altra volta, Vincenzo. Mi spiace, buona serata. Andiamo con Paolo che chiama da Reggio Calabria. Sì, buonasera. Buonasera. Il mio contributo fa riferimento alla proposta del sindaco di Aresto, Ghirelli, Ghinelli. Sono d'accordissimo con lui e formulo i miei complimenti, le congratulazioni a questo sindaco, soltanto però volevo segnalare che come criterio si potrebbe banalmente prendere il reddito della persona che chiede il sussidio e poi il reddito normalizzato con i componenti della famiglia utilizzano strumenti come l'ISEE eccetera, e a prescindere dal tempo dal quale la persona è residente nel comune. Però guardi, posso dirle una cosa, io credo che il reddito stia già a monte di questo discorso, cioè quando uno va dai servizi sociali a chiedere una mano non è che ti aiutano a prescindere, guarderanno se sei uno che ha un lavoro, ha delle rendite, guadagna bene, non è che ti danno che ti diano molto, sicuramente il reddito c'è già, questo criterio chiaro, della residenza si aggiunge, no, a quello del reddito. Ma è difficile che trovino due persone con reddito identico, quindi ci sarà sempre una discriminazione anche riguardo al reddito. Cioè io banalmente ritengo che un cittadino che abbia la residenza da un anno sia membro della comunità tanto quanto quello che è residente da 5, 10 o 50 anni. No, però scusi, non è tanto quanto, è di meno, un anno è meno di 5. Poi uno può dire, anche se è meno tempo che sei membro di questa comunità, hai diritto comunque a un aiuto, questa è un'altra scelta. No. Questo non può condizionare il tempo della residenza, non condiziona in effetti i diritti o i doveri del cittadino, tanto più che il reddito, essendo espresso poi con un numero, praticamente abbiamo delle chance infinite per fare la discriminazione fra un cittadino e un altro. Va bene. Tutto qua, molto grazie anche a lei per il suo punto di vista. Andiamo con Francesco che chiama da Vicenza. Buonasera Francesco. Buonasera, guardi. No, intanto complimenti per la trasmissione del secondo e andiamoci avanti, dai, in veloci. Il pensiero mio è questo, no? Il discorso della raccolta dei pomodori per strada e tutte quante queste cose. Ma i caporali che vanno a caricare le persone nei pullman, con cosa li pagano queste persone? Dove vanno a prendere i soldi? Io mi faccio sempre un pensiero, siccome faccio l'imprenditore anch'io, e dico, ma caspita, io sono controllato dalla mattina alla sera, ho problemi con gli studi di settore, devo essere congruo, e questi qua così facilmente si caricano le persone, le portano sui campi, persone che muoiono nei campi, ma e poi le notizie vengono, si sentono prima dei giornalisti che sono ormai diventati, chiamiamoli la polizia di Stato, ma le guardie di finanza nei campi non si va a controllare le persone. Dico qua, ma non è che chiunque vada a controllare, mettiamola così, nei campi, in quelle situazioni lì andrebbe bene, andrebbe benissimo per mettere alla luce quelle situazioni estreme. La Guardia di Finanza non ho capito perché. Guardi che i caporali si fanno pagare in nero da questi. Quando non siamo congrui ti arrivano immediatamente in azienda a farti la verifica fiscale. Sì. Allora non vanno. Cioè, dico, se le persone che vanno nei campi e raccolgono i pomodori, sapranno bene quanti pomodori quanti sì. pomodoro, guardi, non lo so, io non lo so, però credo che non sia un conto è la verifica fiscale, io vengo, pianifico di andare oggi nell'ufficio di Mario Rossi, domani in quello di Luigi Bianchi, un conto è andare nei campi dove si raccoglie la frutta sterminati, sono dei veri e propri latifondi, e cercare così a casaccio di trovare gente. E spesso le persone che lavorano sono assunte, il problema dei caporali è che poi in un secondo momento si fanno pagare per farle lavorare, e quello è difficile da controllare. Dopodiché poi può darsi pure, come dice lei, che la Guardia di Finanza sia troppo chiusa negli uffici. Direi che è tutto per questa sera, dobbiamo chiudere e salutare. Grazie a Cristian Goldoni, Leonardo Siligato, grazie a Gala, come sempre, Andrea Piana, Valeria Bernardi in regia. Ci risentiamo domani per l'ultima puntata della settimana, 18, 20 e 30 non si può fare. Ciao da Alessio Maurizi, ciao!